When you're ready to ride Metro, we want you to know we're ready for you. Here are just a few of the people at Metro to tell you how we're doing our part to keep riders safe. We're cleaning like never before, with hospital-grade cleaning. You'll find hand sanitizer stations all over the Metro. No mask, no Metro. Need one? We have a few extras. At Metro, we're doing our part to keep the D.C. area moving. Find out more at WMATA.com/doingourpart. Dalle segrete tenebrose di Italian Podcast Network, con le attrezzature insanguinate avanzate a boia e con gli inutili tentativi di esorcismi di Morgan, va ora in onda Dietrologia Videoludica Speciale Halloween. Carissimi amici di Dietrologia Videoludica, benvenuti a questo fantastico speciale sui giochi de paura. So, giochi tutti che ci spaventano, perché questa è la notte di Halloween e quindi ovviamente tutti e tre ci siamo riuniti. Eccoci qua, siamo belli. Guardiamo e ci sono anche degli amichetti che stanno dall'altra parte, quindi però tanto salutiamo quelli che stanno vicino a me, alla mia destra Giuseppe Sasu. Buonasera a tutti. E alla mia sinistra, come ti chiami? Marco Gualdi. Ciao, mi sono travestito da ictus, funziona. Io pure sono travestito da ictus. Abbiamo invece dall'altra parte delle montagne, che non sta in Francia, ma sta in Svizzera, quindi nella parte brutta dell'altra parte delle montagne, abbiamo Stefano Bigio. Buonasera amici, ma soprattutto amiche. Invece a Roma, quindi tipo a... che non è ancora entrato, perché cioè, non mi fa entrare. No, vabbè, c'è quell'altro. Sì, quello non lo fa entrare, va bene, ci sarà una ragione. Però dico, un altro che sta a Roma, tipo a 15 km da qua, ma non vuole venire perché ci snobba. Snobba oramai, abbiamo capito che non proprio con noi non ci vogliono niente a che fare. Cioè, Simone cognome Andreozzi. Ciao a tutti, un saluto festoso a tutti questa festa di Halloween. Che ci coinvolge tanto. Che bello Bigio, cioè io non riesco a guardare altro. È più bello Bigio o più bello il microfono? Il microfono poi gli dona un qualcosa di non so quale. Sembra quasi, è quasi impallidisce. È fallico quasi. Esatto. E poi l'ha studiata l'inquadratura. Ricordate che Hitchcock. Hitchcock ci ha studiato anni per fare una cosa del genere. Più il cock. Ho più il cock che Leach ha studiato. Esatto, sono belle cose fantastiche. Hitchcock è l'autostoppista del pisello. Vabbè, io comunque sono qui di passaggio in realtà, perché ho capito tutte le volte, poi via e se ne va. Fa boccate, fa dai. mi faceva piacere venirvi a salutare a tutti quanti, soprattutto a Stefano Big Joe. Ciao. Perché è il mio amichetto. Ragazzi, fantastico. Ciao. Siccome io non so niente né di che cosa si tratta di questa trasmissione né qual è la scaletta roba del genere, è giusto che Biggio insomma prenda le redini della questione. No, ma io non so leggere. Infatti Biggio, prendi le redini. Allora, in primis volevo salutare Mr. Newpick che commenta già su Tutubi, dove ci potete trovare. Cristianone, ciao Cristiano, ciao. Tanto siamo sempre noi, ci ascoltiamo fra di noi. Sì, esatto, ci vogliamo bene. Poi un'altra domanda, Pizzi, ma noi dobbiamo registrarci ognuno la sua traccia? No, siamo ok, bravo. Cazzate, non dite cazzate mai. Perché c'è la traccia di un turco? Perché, esatto. Perché no, sì. Speriamo, andremo persi come lacrime nella pioggia. Esatto, no, perché in realtà finita la registrazione, come Simone ben sa, rimane ovviamente il video su YouTube e da lì si è bello Simone, altrimenti poi ci abbiamo il capro espiatorio. Simone lo sa benissimo, dal quale si può estrarre. Sì, se sei in diretta su YouTube, se siete in diretta su YouTube, se siamo in diretta su YouTube, siamo in diretta su YouTube, c'è gente che commenta. E allora sì. Ok. Potrebbe commentare sulla fiducia, volendo, chi può dirlo? Vedi uno schermo nero nel silenzio e dice quanto siete bravi. Magari sta commentando, ma che cacchio state facendo? Che cazzo state a fare? Allora, io so che Biggio, da buon conduttore, sì. Adesso Biggio devi prendere in mano le redini, eh? Lui sta già controllando. Stavo aspettando, esatto. Io stavo aspettando che si iniziasse a macinare un po' di. un po' di, come dire, di pubblico, di pubico e così via. Ma soprattutto purtroppo abbiamo un problema con Cesare Giraldi, che era ospite, anzi che è morto, dovrebbe partecipare, ma arriverà, ma non riesce ad entrare, sta biastimando sulla chat di Facebook. Noi lo salutiamo, intanto vabbè, diamo i nostri riferimenti. Sì, allora i nostri riferimenti cominciamo bene. I nostri riferimenti sono www.dietrologiavideoludica.it, sì. Su Facebook e su G Plus Dietrologia Videoludica, soprattutto su G Plus, mi raccomando, scrivete un po' di meno perché non riusciamo a starvi dietro. No, scusa. Allora, però dovete stare bravi perché se no mi inalbero. Poi su Twitter at Dietrologia Videoludo. L'email è dietrologiavideoludica@gmail.com. E il canale YouTube? Il canale YouTube è Dietrologia Videoludica. Esatto. Anche Dietrologia Video, però. O Dietrologia Video, ma se cercate. Lo trovate con youtube.com/dietrologiavideo, però se cercate Dietrologia Videoludica lo trovate ugualmente. Magicamente usciamo. Andateci, sì. Perché oramai siamo arrivati alla pubblicazione di ben tre video a settimana, che video che stanno riscuotendo un certo successo. Piacciono perché fanno ridere, ma soprattutto sono molto esplicativi. E pregni di gameplay? Sono pregni di gameplay, la maggior parte ha fatti Giuseppe. Quello che si è sbattuto a giocare. Se non ci fosse stato Giuseppe, a voi a video. Sono qua. Video pieni di pregna, per cui sì. Mi raccomando, ecco. Sono io quello che è. E guardandoli riscaldate pure. Riscaldate, ma questa è una cosa che potrebbe capire solo il buon Paganini, che voi non conoscete. No, vabbè, chi non conosce Stefano Paganini, scusa. Oltretutto mi pare che l'ultimo video, il penultimo è quello proprio dove c'è Biggio che commenta assieme a te. Esatto, l'uccisore di cinghiali. Esatto. Poi detto ciò, cosa facciamo? Aspettiamo Cesare. Io direi intanto. Dicono che a schermo intero vedono solo me comunque. Perché qualcuno ha cliccato sulla finestra di Stefano, secondo me. Ho questa impressione di quelli di ideologia, purtroppo. Allora, per cambiarla, devi ricliccare o si dovrebbe deselezionare. Quindi ora ogni quanto siamo belli, eccoci. Siamo noi. C'è una regia volendo. Sì, sì, sì. Ma perché Simone Cognome continua a boicottarci? Lui infatti ci allava la posta perché non vuole farci vedere. Tanto mi va via. È timido. Ecco. Rimetti l'avatar che era meglio. Va bene. Non è vero, è sempre bellissimo Simone. Biggio, un po' di rispetto. Luce, hai visto che luce cinematografica? Molto horror, molto horror. Perché io sono al centro, che sono il più brutto di tutti? Vabbè. Perché così ti vediamo, possiamo ridere meglio di te, scusa. Ah, giusto, hai ragione. Scusa. No, ma figurati. Siamo tutti contenti. Assolutamente. No, io lancio già dal primo giorno non si parlava. Esatto, io lancio il sondaggio, anzi il coso, che maglietta è questa? Di quale gioco è questa maglietta? È tutto sfogato. Si legge al contrario. Allora, c'è scritto? Vabbè, sì, esatto, c'è scritto esattamente questo. Hai già trovato la... Questo è il Oregon con Trail. Ha già vinto Peppe, ha vinto... vabbè, ha vinto... Il gioco che avete sviluppato voi due, scommetto. Cioè, più o meno. Non io c'è Giuseppe. Una versione quella tipo zombie di recente. Sì, c'è Oregon Trail. Esatto. Lo le sa tutte. Modestamente. Proprio... Pare che ci lavora quasi, Io direi di passare alla fase che ci è mancata tanto nella puntata scorsa. Ho dovuto fare un'improvvisazione la settimana scorsa. Biggio, ho sentito, ma per le macchine a vapore. Volevo farti come macchina a vapore, stavo lavorando. Quindi macchina a vapore. Saluto, lancialo tu, imparare all'italiano. Biggio, ci rende imparati all'italiano. Esatto, questa è aspetta, è l'intro? Questa, ma proprio la sigla, questa. È fatta così, ragazzi. Quando siamo in diretta, i mezzi questi sono. Cioè, non è che... Va bene, allora mi avvicino il microfono, mi siedo come un panzone buon tempone. Bene, inizio a leggere quindi questo breve incipit. Mi tolgo gli occhiali così vedo sfocato e leggo peggio. Bello. Allora, no, quindi inizio. Eccoci qua, amici dell'occulto, insieme in questa serata dove i morti escono dalle tombe e i giovani si nascondono sotto il letto. Dagli atroci ricordi dei qui presenti e dei traumi infantili mai risanati di voi ascoltatori, giungono gli angosciosi ricordi che daranno linfa a questa puntata trasudante di orrore e disperazione. Cosa tormenta il vostro subconscio? Quale terrificante storia perseguita la vostra esistenza videoludica? È ora di aprire il cancello maledetto delle vostre paure e riversarle nelle grande, grande. È giunto il momento di cominciare questo nuovo episodio di Dietrologia Videoludica. Giochetto o scherzetto? O cancelletto. O cancelletto. Io direi che stavolta... Dobbiamo bacchettare. Parto io, mi dispiace, guarda, è perché sei mancato, ecco. Attenzione, c'è stato un segnale, vediamo se è arrivato qualcuno. Cosa è successo? Sì, eccolo, Cesare grande. È apparso Cesare, che però è mutato. Sì, perché ti devi attivare il microfono da solo, Cesare. Devi mettere l'audio, Cesare. Cesare, devi mettere l'audio. Clicca in alto sul simbolo del microfono e il tuo... Ecco qua. Parla. Oh, eccolo. Mi scuso con i nostri ascoltatori, veramente. No? Cesare? Sì. Cesare, scrive ma non parla perché si vergogna. Sì, Cesare? Di partecipare. Nel frattempo io abbigio, diciamo, di 5. Sarà perché sei mancato e quindi sei rifuori l'allenamento, però. Pizzi, per favore. È pure caduto. È anche caduto Cesare. Vedi, questa tua affermazione ha fatto cadere Cesare. Biggio, comunque io sì, 5, cioè era questo. Dai, ma cioè, perché ho sbagliato? Uno. No, è veramente, no, c'hai giustificazioni. Cioè, no, ascolta, sono tornato in fatta facile. Hai ragione. No, allora, era facile. Arianco Cesare. Ci riproviamo tanto per, giusto per, Allora, era facile, però c'è stato cancello e maledetto, Leonidas. Cancello maledetto. Aiuto. Tu ci sei entrato dentro un piede. È diventato no, cancello e maledetto diventa cancelletto. Certo. Hai capito. Cosa stai dicendo? No, non lo so, Simone, voto 6,66 per stasera, va bene. Sì. Simone mi vuole bene, mi dà sempre voti alti. Cioè, 6,66 non capite, cacca. Cesare, ti sentiamo se parli, però. Stanno insultando. Cesare, ma ci no, senti? No, se dicono qualcosa, dillo seriamente. Ma aspetta, no, Cesare, stai parlando con delle persone, non con noi. Vabbè, allora a questo punto sente le voci, attenzione. Sta parlando con delle persone che non ci sono. Devo intervenire io per abbassare la media e gli do 4 meno meno. 4 meno meno, perché anche perché sinceramente la mancanza di Stefano, che ci ha fatto, non possiamo dirlo, il pacco la volta scorsa. E non solo, pure la Genshin. Esatto. Lo possiamo dire, c'ha il pacco, esatto. Ha detto. Si riflette sulla sua performance. Ma non è vero, non è vero. Quindi siccome si è impigrito il ragazzo, occorre che vai a riparare. Il pacco è dire sì ci sono e poi non ci sono. Io ho detto ragazzi lavoro e se voi avete finito così presto io non ci posso fare niente. Era una situazione di notte. Sì, aspetta, raccontiamola sta cosa, poi iniziamo la trasmissione. Allora, erano due settimane che stavamo in lavoro, dove noi organizzavamo questa andata alla Games Week. Credo, tutto quanto. A un certo punto, tipo 2 o 3 giorni prima, lui dice: ah, ma noi sapeva che andavamo il 25 e 27, ma poi andavi il 27. No, perché io arrivo al 27 e ma sti cazzi che tu arrivi al 27. Noi se ne siamo già belli cadati, giustamente. Ma se siete delle minche, io vi dico di andare più tardi, voi vi organizzate così, io vi dico allora io non ci sono. Invece no, perché come il buon Giuseppe ne può testimoniare, se abbiamo visto qualcosa, sono andati venerdì, se no. Vabbè, ma lì vedevate a me. Cosa ve ne fregava della Games Week, scusa? Allora, vediamo un attimo. Cesare, ci sei? Sì. È importante che ci sei. Poi dopo tutto. Ciao, buono. Adesso devi dare un voto orribile a Biggio. No, altissimo. Ma bello, non ho sentito nulla. Mi raccomando, Cesare. Il problema è che non ho sentito nulla di quello che avete detto fino a 5 minuti fa. Quindi. Noi continuiamo a non sentire nulla di quello che dici adesso. Infatti. Allora, questo è il bello della diretta, così. Esatto. Gli astronauti quando della diretta e se qualcuno cade. Sono anche gli stessi mezzi, esatto. Anche peggio. Il bello dell'hangout, aggiungerei, cioè non funziona. Ma anche il bello del tuo microfono, però. Sì, complimenti per il microfono. Il mio sarà invadente, ma almeno. Sembra che sei sdraiato con un pene metallico tu, Stefano. Sì. Ma è esattamente così. Però. Cioè, questo non è il microfono. Allora, Cesare, che voto dai a nazionale? Ti do un 6 politico perché non ho sentito nulla. Oh, così si cacciare. Forza Roma. Forza Roma. Sto bene di questa di quest'altro. Vabbè. Biggio, prendi in mano la trasmissione, inizia. Oltre che il microfono, prendi in mano la trasmissione. Bravo. Dei momenti di calcio. Bene, allora. Inizierei quindi una bella discussione, anzi, su questi fantastici giochi da paura. Praticamente questi giochi sono stati sondaggiati, quindi non sono opera delle nostre menti, ma delle menti varie ed eventuali dei vari personaggi. Sì, esatto. Abbiamo dato qualche preferenza. Ovviamente abbiamo dato spazio a chi più chi meno, diciamo, però in linea di massima. Cesare, un po' di attenzione, sì? Per favore. Sì, scusate. Costringermi a mandarti fuori. detto ciò, di al tuo amico, chiunque sia, che se vuoi ci parli dopo. Ma io c'è una plasma di lui, è De Conte. Sì, mette le voci. Sì, ho le prese. No, in realtà c'è un mio amico qui a fianco, tra l'altro lo stesso che è venuto alla Games Week un giorno. Ah, Ernesto! Quindi... No, non è Ernesto. Sparavesti. Non l'avete conosciuto. Allora, io conosco. No, basta dire un nome a caso. Che tra l'altro si chiama Ubaldo. Ubaldo. Sì, allora. Salutiamo lo stesso anche sul suo amico. Che salutiamo l'amico invisibile. L'amico invisibile. Ciao. Ciao, amico invisibile. Ma noi gli vogliamo bene uguale, Cesare. Anzi, io gli voglio più bene adesso che agli amici invisibili. L'hai visto meno, ti vogliamo bene. Esatto. Okay. Comunque. Io direi di iniziare dei giochi che sono usciti, quindi anzi qui è stato proposto di inserire i giochi che sono usciti dalla classifica dei sondaggi, purtroppo. Che sono usciti con le ossa rotte. Sono usciti con le ossa rotte, esatto. I non votati sono stati Haunted Ground, Cold Fear, e poi qualcuno ha messo tutti e a fianco ste. Io non ho scritto tutti su Cold Fear, io ho messo tutti su Dead Space, che cavolo state combinando? Perché fate questi errori? Tranquillo, fai come se non ci stesse la caramella e la droga, tranquillo. Boh, comunque. 20 anni. Quindi, Cold Fear, è Giulia Passione. Giulia Passione, io mi chiederei chi quale... Chi è il colpevole che ha lordato questo serissimo sondaggio? Allora, io vorrei scusate, dire... Scusate una cosa, ma la chat di YouTube, dove la vediamo? Si può vedere all'interno dell'hangout, cioè con questa nuova tecnologia? Siamo sicuri? No. Guarda che sei tu quell'avvezzo alle dirette. Sì, infatti. Stiamo facendo per la prima volta. La diretta è di Freeplank! Andate tutti su www.freeplank.it. Che è una trasmissione dove ti chiamano lo stesso giorno per tappare i buchi. Oh, Simone, guarda... Ci fa non è vero. Guarda, adesso dico a Bruno, faccio entrare pure a lui, vi faccio spiegare. Non ci spiega niente. Bruno sta accarezzando dal pane, lascialo in pace. Esatto. Ma parlate di cazzarola di Halloween. Allora, il cazzarola di Halloween, a me dispiace che sia uscito Giulia Passione, sinceramente, in primis. Perché secondo me è un gioco da paura di una certa entità, diciamo. Insomma, Haunted Ground e Cold Fear io non me li ricordo neanche, sinceramente. Quali sono anche di Madden Cold Fear? Che era, se non, cioè, un nome strano in giapponese. Che Underground. Demento si chiamava. Ah, Demento. Demento, che è il famoso. Dementolist, giusto, era quello che faceva sentire più vicino ai giocatori. Esatto. Demento, per no, Demento. C'era questa ragazzetta che si ritrova sperduta dentro sta villa. Doveva scappare, non c'aveva armi. Scappava, a un certo punto trova un cane che l'aiuta a raggiungere. Ah, sì, si va a nascondere sotto il letto dentro la casa. Era quello dove c'era quella specie di umanoide ciccione deforme che ti inseguiva. E no, qual era Simone Pizzi? Ero io che no, hai detto sì, separando di Simone Pizzi, giù. Vi invito ad andare a vedere il video di Deadly Premonition, perché Deadly Premonition è chiaro che ci sono delle esplicite cose, riferimenti a Simone Pizzi. No, vabbè, ma di questo qua ne parleremo dopo, perché pare che era pure scaletta. Ah, pure scaletta. Come scaletta? È messo tra gli esclusi, perché in scaletta. No, non è in scaletta. L'abbiamo messo tra gli esclusi. Esatto. Non si è ritrovato. Esatto. Cioè, no, ha messo tra gli esclusi e in scaletta risulta tra quelli. Poi Cold Fear. Gioco PS2 comunque, Underground. PS1. Ah, no, PS2. Assolutamente sì. Poi Cold Fear. Il distruggitore si è lanciato. Cold Fear, ragazzi, che io non mi ricordo assolutamente, idem, descrizione breve. C'era quello che era ambientato su una nave. Sì, ho fatto l'attimo. Ah, che ne so, non se lo ricorda nessuno. Qua, ma spera che stava di giochi inventati. Allora, di che ma non perché non era la serata giochi inventati che fanno paura. No, quella è la prossima volta. I giochi di paura che avremmo voluto giocare. Avevamo voluto inventarci. Mm-hmm. Anzi. Ah, beh, Resident Evil Revelation dalle immagini di Cold Fear. Io non me lo ricordo per un cavolo. No, Cold Fear, cosa state parlando? Stiamo parlando di Cold Fear. Perché state parlando di Resident Evil Revelation? È uguale, Resident Evil Revelations, cioè i zombie sulla nave. Ma erano proprio zombie o erano tipo... No, erano infetti. Ah, beh, erano quelli che poi parassiti, e c'era la solita struttura con le stanze chiuse a chiave. No, scusate, ma c'è Leon praticamente. Scusa, mi interrompo, ma c'è Leon in copertina. Quindi, che cazzarola hanno fatto la Microsoft? Sì, vabbè, la Capcom hanno copiato un gioco del 2005. Ma può essere che era un spin-off? Che ne sai? No, non era completamente slegato. No. Ubisoft, figurati. C'era questa cosa della nave che ondeggiava, il personaggio che veniva sballottato. Poi basta. Ma non potevi salvare con le macchine da scrivere, però. No, trovando i nastri. Anche perché sennò era un po' difficile. Sì. No, però. Dopo ne parliamo. Bene, poi ci sarebbe Giulia Passione, che tutti conosciamo, e io mi chiedo perché Giraldi ci parla di Giulia Passione. Sì, Giulia Passione, no, esatto. Cesare, tu che sei una persona studiata. Sì, io sono uno che sono nato imparato, come si dice, no? Esatto, di che cosa parla Giulia Passione e perché ha terrorizzato le masse? Ha terrorizzato le masse perché è presente sul mercato. No, ha terrorizzato le masse perché è sul mercato, molto semplicemente. Basta, cioè, basta questo per renderlo spaventoso. E mi sembra che da trattarlo ad Halloween sia perfetto, insomma. Io vorrei sapere perché Simone Cognome intanto si gira e vomita. Esattamente perché sto vomitando. Perché stai vomitando, Simone? Però così, dai, così ad Halloween si vuole. Non registra, ma qualsiasi cosa tranne che registrare. Io ho visto. Adesso ti vediamo, lo sappiamo che non ti dedichi alla registrazione. Passi il tempo. Se è una congiura, se questa sera è una congiura contro di te, ditemelo, io mi organizzo, pulisco. No, prima era una congiura contro di me, poi sei arrivato tu ed è diventata contro di te. Ho capito, cioè non va, non sta bene questa cosa. Per questo perché aspettiamo il turno di Cesare sempre. Esatto, ma Cesare sente troppo male per farci la congiura. Io non vedo un'ombra che cammina dietro Cesare. Le ombre dietro le spalle fanno sempre paura. No, invece posso dire che fa molto più paura la stanza la porta di Giuseppe dietro Simone, che da un momento all'altro potrebbe uscire qualsiasi cosa. No, che tu non lo vedi perché guarda quei pixel, c'è Slenderman. C'è già una presenza lì dietro. C'è lo Slenderman, sì, c'è lo Slenderman, sì. Sì, io rimango ancora pochi secondi, sarò vivo, poi morirò in preda. Che è successo, Cesare? Che ti stanno facendo? Mi stanno picchiando a sangue. No, in realtà penso ci sia la connessione più brutta del mondo, quindi non vediate assolutamente nulla. No, ogni tanto ti vediamo. Vediamo. Ti sentiamo. E sentirti un po'. Tutto sommato ti sentiamo anche. Bene, temevo di no, dato che non mi faceva nemmeno entrare nell'hangout, quindi almeno questo, almeno ci sono adesso. No, no, no, no, anzi, considerando buono, che stai trasmettendo l'aldilà, va vabbè, bene. Vabbè, Biggio, allora, cominciamo seriamente la scaletta. Allora, iniziamo dagli ultimi posti, quindi i giochi che in teoria sono stati, cioè i giochi che in teoria sono stati i meno spaventosi. Le grandi masse che sono nostre, nostre, esatto, per i nostri amici del proibito. Iniziamo quindi con Medieval 2 o Medieval come Medieval, perché giochi di cui non sappiamo pronunciare il nome. Io lo chiamo Medieval, Medieval, dai, chiamiamolo Medieval. Lo chiamiamo tutto Medieval. Va bene, Medieval 2. Votato da Mattia Brognoli, che esatto, stiamo per culare, perché insomma, cioè, Medieval 2 era quello non era quello del porca vacca, era il porca vacca. No, era quello del cavaliere non morto, Sir Daniel Fortesque, esatto. E quello gli ha fatto paura. Sì, sì. Era un misto tra un platform e dipende se lo, se lo giocava conciato come quello di Arancia Meccanica con gli occhi aperti e Beethoven sottofondo, magari poteva far paura, che ne so. Cioè, ma perché parlo? E che ne so, magari da piccolo questo, lo trattavano così, non lo so. Questo nostro spettatore, ripetiamo il nome, Mattia Brognoli, si è sentito spaventato da Montesco. Ha fatto Fortesco, paura. È fatto paura. Vabbè, oh. Oh, vabbè, se fa paura io non ci posso fare niente. Cioè, io ho avuto paura di cose molto... Serpente, esatto. No, soprattutto c'avevo paura della sigla che cantata nel Commodore 64. Io conosco anche una ragazza che ha paura di E.T., per cui insomma possiamo anche... Vabbè, io ho paura di E.T. Ma no, E.T. che c'ha paura di te. Io solamente ho paura di E.T. Condividiamo la stessa forma cranica più o meno. E anche gli occhi dopo che hai pippato. Però, esatto, ma comunque. Ma a proposito di ascoltatori, ma qualcuno controlla chat? Sì, io controllo la chat perché voi non siete social. Mentre io sono social. L'ultimo messaggio è il tuo, social. Infatti, sono così social che l'ultimo messaggio è il mio. Già qualcuno ci sta ascoltando oppure stiamo parlando a bambera? No, penso che stiamo parlando a bambera. No, no, non lo so. Ragazzi, iscrivete se ci leggete. Considerate che però su YouTube appare con un pochettino di lag, quindi quello che ci diciamo adesso... Vabbè, ma è normale, è normale. No, loro lo ascolteranno tra qualche secondo, giorno, diciamo, dopo qualche giorno anche. Questa cosa, perché se non glielo dicevamo non lo sapevano. No, e vabbè, magari non tutti ascoltano Free Playing, quindi non lo sa. Che ti invitano solo quando c'hanno i buchi, proprio che non sanno proprio chi chiamare. Esatto. Che ti chiamano? Mi chiama Bruno. Piccio, stavi rifacendo la stessa scena di prima. Non esatto. Piccio, c'è un buco da tappare. Sì, ogni volta che sentiamo uno sfilatino. Ma era un po' come quando. Era ci un po' sono come, comunque commenti. Se era un po' come quando Pizzi mi chiamava per fare le filmanie. Ci sono tanti commenti di Mr. Newbik. Newbik, si vede che è contento. Newbik. Sì, ma tutte persone a cui io voglio bene, comunque, a differenza vostra. Umberto invece Primiceri dice che Biggio è in eclissi da microfono. Sì, perché ho il microfono. Così mi sentite meglio, però, ragazzi. Cioè, non è che me lo posso mettere qui, qualcosa che sbuca da sotto. Io quando c'hai questo microfono, io non vedo l'ora di editarti. E poi è sempre Newick ha detto che Cesare parla al contrario come il nano di Twin Peaks. È vero. Ricordiamo che Newick è quello che aveva paura a giocare a Shadow of the Comet. Quindi, insomma. Che ma anche io, ovviamente. Io ho paura del primo di qualunque gioco. Cioè. E comunque continuiamo con la nostra fantastica abitudine di non parlare di un cazzo. Continuare a parlare. No, allora, no, scusate, stavamo parlando di Medieval 2, quel gioco. Ma siete sicuri che sia quello? Quindi, quello di Fortescue, quello dei Sir Ratsball Morton. Fortescue, esatto. Comunque. Poi Project Zero 2, mi chiedo Crimson Butterfly, mi chiedo perché sia, ovvero Fatal Frame in giapponese, mi chiedo perché sia votato così in basso tra i come penultimo praticamente, perché secondo me è un gioco che ti fa cagare sotto, cioè boh. Forse no, il punto è che non è molto diffuso. Chiamo Giuseppe. Forse proprio perché la meccanica era di andare a fare, di fotografare i fantasmi, non è che più con di tanto. Le pellicole antispirito. Esatto, non è che più di tanto. Beh, dai, c'è pure la trasmissione su coso, su Sky. Esatto. Quello là che vanno a fotografare col finto. Col filtro. Sì. No, guarda. Sì. Andalo via. Ma almeno, cioè, a me Ghost Hunter, come si mette chiama? Più inquietudine proprio il mostro anche Amiba. Sì, esatto. Il mostro il mostro quell'ignorante, no, che vedi un'enorme massa che ti spunta da qualche parte, o anche per i più classici. Stai parlando sempre di Simone Pizzi, quindi. Sì. A me mi spuntano cose in continuazione. Hai detto un'enorme massa ignorante. No, devo dire che ho detto proprio Jack Zero come sei, non mi ha mai messo così tanta tensione al punto veramente. Cioè, ci sono stati molti altri giochi che a me personalmente, anche quando ero più giovane, arrivavo al punto che non potevo giocarli al buio. Non so se voi qualche gioco è capitato, sì. E addirittura anche giocando tipo la mattina, a un certo punto mi saliva una tale inquietudine che avevo la necessità di spegnere spegnere la console, il computer, quello che era, e fare un esorcismo, non so se per voi avete sentito, diciamo, mai così, perché per un gioco vi è mai capitato così tanto. Sentiamo Simone e Cesare in merito a sta cosa. Sì, infatti Simone sul fatto, vai Cesare. Prego, sì. Ah, ok. Sul fatto di un gioco che può farti spegnere addirittura e farti smettere di giocare, intendete? Beh, io questa cosa per esempio l'ho vista recentemente con un gioco indie, un'avventura grafica che si chiama The Cat Lady, non credo che molti la conoscano. Sì. Come si chiama? Non l'ho giocata, ma è in scaletta. The Cat Lady. No, non la conosco. Che tra l'altro Cesare ha recensito per UrGamesItalia.net. Esatto. Almeno salutiamo anche. Tra parentesi, salutiamo UrGames Italia, Robertone e così via. Con un codice gentilmente offerto proprio da loro, tra l'altro. Ecco. Diciamo che questa avventura grafica è molto, molto disturbante, direi, quasi, non lo so. Diciamo che è molto scura nelle tematiche che tratta, si parla molto di malattia, di morte, di suicidi, di cose molto allegre, insomma, e quindi non è tanto quello che vedi sullo schermo che ti fa venire voglia di smettere di giocare, ma la riflessione che ti provoca, diciamo, il fatto che uno ci pensi e possa rimanere quasi offeso, diciamo sconvolto, in senso, vabbè, forse un po' esagerato, però comunque decisamente colpito da quello che succede. Ci costringe a far video pure di questo. Dobbiamo fare il walkthrough. No, io sono molto così spoileriamo tutto, però sono molto d'accordo con quello che dice Cesare, proprio perché secondo me i giochi horror, non necessariamente anche con componente più o meno spinta survival, che riescono, diciamo, più a immergerti, a farti spaventare, sono proprio quelli che giocano molto con ciò che vedi e ciò che non vedi. Quando tu hai meno certezze, cioè come i film di Vinto Brass, no? Esatto. Ma se vede in certi si vedeva pure troppo. Si vedeva pure abbastanza, esatto. Hai ragione, scusa Giuseppe. Ma no, tranquillo. Quando appunto hai mostri così che ti escono dalle fotute pareti a ripetizione, il ritmo è molto veloce, o addirittura sai che comunque hai tanti troppi mezzi per poterli superare queste situazioni, quindi che possono essere un arsenale vastissimo, comunque anche una scarsa intelligenza dei mostri, la tensione non riesce a raggiungere proprio l'apice, il culmine, che insomma ti fa venire il cagotto, come si vuol dire, no? Ed è secondo me una cosa che appunto può influire molto sull'aspetto horror di questi giochi. O anche pensiamo la possibilità pure di avere per esempio pure il permadeath, che è cosa ormai che raramente trovi nei giochi odierni, no? Perché siamo abituati, comunque vabbè, sono morto, ma insomma il checkpoint dietro l'angolo, oppure ho salvato 5 minuti fa, quindi non mi sono perso niente. Beh, è come anche quando ti giochi le partite più, no? Sì. Praticamente c'è, cioè, tutte quante le armi, le corazze. Però doveva parlare Simone, però. Vabbè, ma Simone poi parlerà. Vai Simone. Allora, io spaventissimi, diciamo, quello che mi ricordo più nitido è stato Resident Evil 2, perché uno dei mi ero proprio scimmiato, quindi cioè andavo a casa di, magari era capito di andare fuori a casa di amici, mi ero fatto mi ero caricato tutto la PlayStation con tutto il gioco a Maratan, e mi ricordo che lo giocai una sera, una domenica sera, praticamente fuori pioveva, c'era di tutto, e stavo in da solo praticamente in questa stanza che non era neanche la mia, con questa PlayStation attaccata, e c'è un momento nella biblioteca nel secondo episodio, nel 2, che succede, esatto, che a un certo punto non so se caschi, non mi ricordo cosa c'era lì, mi ricordo, sono tipo mi sembra averla anche spenta, però, o comunque stavo lì lì per, ma l'ho gettata fuori dalla finestra. Sì, però non era tanto, cioè lì è l'effetto zompo che è un po' diverso magari dall'ansia quella magari che dura durante tutta la partita. Vabbè, insomma, ci quindi sono tanti tipi di reazioni. Sì, esatto, però già sta intenzione, perché Resident Evil, ricordiamo, c'aveva questi giochetti simpaticissimi tra cani che entravano, cornacchie che spaccavano le finestre, cose che si rompevano, era fatto quasi ad arte, perché avevo in punti dove ti aspettavi che non succedesse, o comunque era l'ultima cosa che, a cui pensavi, come le braccia dei zombie dalle... Ma infatti uno dei primi giochi, sì, anche dei pochi giochi che veramente mi ha fatto paura, è stato proprio il primo Resident Evil, perché in effetti utilizzava tutte le tecniche che si utilizzava al cinema, che si utilizzavano al cinema per metterti l'ansia, poi al prescindere poi da quello che si vede più esplicitamente, dei mostri che fanno schifo, fanno paura, roba del genere. All'inizio non era proprio, era più questo gioco di suoni, c'è la scena del gatto dentro al bagno. Scusa, Pizzi, ma parliamone fuori come si dice, da un armadietto, no? Se vedeste, cioè... Pizzi, parliamone più in là di Resident Evil. Ne parliamo più in là? Sì. Ok, ne parliamo. Avremo più modo di parlarne più approfonditamente più in là, direi. Sto parlando di Silent Hill. Quindi, Volevo dire Silent Hill. Clock Tower. No, mo piano piano ricambio. Io volevo dire Giulia Passione. Anima for Pixel. No, poi il primo Resident Evil, se ti ricordi, se vi ricordate, aveva pure, ti dava pure quella falsa sicurezza, no? Perché comunque, anche se praticamente ripulivi una stanza ammazzando gli zombie, poi più avanti nel gioco, quando dovevi ritornarci perché magari passare per forza per accedere a un'altra location, oppure in quella determinata stanza era ancora rimasto qualche enigma da risolvere, lui era così bastardo che magari ti ripopolava, magari anche con nuovi mostri, tipo... E da cui io rispondo, esatto. Call of Duty. Sì. Ricordiamo per esempio appunto quando è che poi devi ritornare nella casa e ci stanno pure gli Hunter, non so se vi ricordate. Sì. Comunque, Nino Antonino Nicita, che salutiamo, sì, si chiede quale gioco riesca a far spaventare veramente. Mr. Newpick dice che secondo lui l'indiano di Shadow the Comet è un ottimo esempio, ma lì ok. Tutti torti, comunque. E poi invece Alessandro Bonelli dice che una bella tensione per tutto il gioco l'ha avuta in Resident Evil 4 e Dead Space, ma senza spaventi. E anche qui vediamo un po'. Stefano Newbick, diciamo pure, insomma, facciamo pubblicità pure a lui, no? Sì, certo. Sulla Free Playing, che è la trasmissione che sono rimasti in due, la chiama. No, ecco, ma glielo devo fare io la pubblicità? No, fagliela tu. No, scusa, fagliela tu. Vabbè, cosa vuol dire? Vabbè, a Calavera Caffè, che è il podcast delle avventure. La cosa più bella, io lo dico anche a Discovery Free Playing, è una forse la cosa più bella che è uscita quest'anno. Pensavo Free Playing. No, non è vero. Che è la trasmissione dove ti chiamano, ma proprio che sono complimenti a Calavera, complimenti a Cristiano e a Alberto. Pizzi no, perché Pizzi è una brutta persona, pessima persona. È di quegli amici che la mamma ti dice non dovresti frequentarlo perché è una brutta. È una brutta, ma devi proprio rimanere a cena. Sì, esatto, a me non piace. Comunque, povero Pizzi. Detto ciò, Antonino dice che si è spaventato a Dark Fatalis perché un troll gli è arrivato alle spalle e si è spaventato. Vabbè, capita, ragazzi. sono cose brutte, cioè cose possono piacere o non piacere, a noi piacciono. Pure sto se tu parli quando io mangio, si vede sempre io che metto la roba in bocca. Sì, stai sempre mangiando, è quello il problema. Vabbè, scusa, ma c'è pure a sto punto i momenti spaventerrimi pure a sto punto in Dark Souls, quando ci sono mostri che spuntano così meno te l'aspetti e magari c'hanno anche livelli un poco più alti di te e ti fanno il culo, no? Beh sì, ma vabbè, boh. No, Dark Souls non mi ha spaventato tanto, cioè mi ha spaventato come gioco in sé, cioè il fatto che esista un gioco così mi spaventa, però è un'altra questione, è un altro tipo di paura, diciamo. Detto ciò, io direi di passare al prossimo gioco, quindi in terz'ultima posizione, ovvero il giochino Obscure, che io non ho assolutamente presente. Qual è Obscure? Sì. Era classico survival horror alla Resident Evil, primo era, solo che era di sti ragazzini dentro la scuola media americana. Era praticamente un co-op dove tu prendevi un giocatore e potevi portartene un altro insieme per fare anche per fare cose zozze. Cose zozze per risolvere alcuni enigmi. E anche qui c'era la morte permanente, perché uno dei questi giocatori potevano anche morire, quindi potevi anche avere un finale, diciamo, più o meno positivo. Quindi, ma piattaforma, eccetera? Horror PS2 e Wii. Ma si fai anche per PC. Ah, questo non lo so. La versione portatile per PSP. Ma cosa c'è? Se scaviamo in fondo anche per Commodore 60. Sì, che poi alla fine un altro nome. Sarebbe da vedere se quante copie ha venduto, perché se con versioni così mi sembra hanno fatto un seguito, quindi un minimo l'ha venduto. Ma io mi sembra che addirittura ho giocato il 2. L'hanno fatto una bella minchiata. Però sì, ma pure il primo non era grande. Cioè, io non sono sicuro di aver giocato l'1 o il 2. Mi sembra l'1, però finisce con un cliffhangerone l'1, se non mi ricordo male. O forse non ho neanche finito, forse no, forse sì. Forse il cliffhanger era finito. C'era un'ambulanza alla fine. A me la cosa che piaceva era tutta la parte delle cutscene, il full motion video, perché erano fatte proprio bene. Cioè. Guarda, io non mi ricordo niente, mi ricordo che è un gioco perfetto da giocare con qualche amico sul divano, insieme, tutti insieme. Quello è... Big Bang, insomma, sul divano. Videoludico. Esatto. No. Simone Cognome è quello che gioca insieme agli altri, perché sennò c'ha paura probabilmente. Quello no, lo faccio anche io, ma ne parlerò dopo anche di quello. Quello lo fanno con me perché sanno che io reagisco in determinate maniere e quindi mi fanno giocare tutte le cose più non è obscuro perché non era. Sì, no, beh, cioè, tipo, no, ti scorreggio addosso dalla paura. No, salto oppure faccio cazzate oppure mi addormento come Resident Evil. Successe con Resident Evil che per esempio camminava contro un muro. Sei addormentato 10 minuti. Ah, sì, no, esatto. Già, esatto. Loro si girarono. Ma che giovane di Cesare comunque. Sì, no, io stavo ascoltando questa discussione. Obscure. Obscure. Di questo gioco in particolare non saprei assolutamente dire nulla, però puoi recuperare. Quindi, però esattamente in questo istante lo vado a recuperare. Però stavo pensando che in effetti uno dei modi in cui si può iniziare forse a giocare a un gioco horror che da soli non si riuscirebbe probabilmente a giocare, specialmente quando non si è molto avvezzi al genere, può essere proprio il fatto di giocare con degli amici, quindi il fatto di rompere un pochino l'atmosfera del gioco con la presenza di qualche persona a fianco potrebbe aiutare appunto a entrare in questo in contatto con questo genere che può dare soddisfazioni maggiori quando affrontato ovviamente in modo individuale. Però questa cosa si può fare chiaramente quando si è abituati, perché ovviamente se ogni mostro, ogni cosa ti fa venire una spavento incredibile e non ci si può approcciare a un gioco horror, non si può nemmeno apprezzare tutto quello che ci sta attorno, la programmazione, l'atmosfera, eccetera. No, però questa cosa che hai detto mi fa venire in mente una cosa che probabilmente, ma pure Stefano se lo ricorderà, ma pure te Giuseppe penso, che quando eravamo più giovani si usava prendere il film di orrore e vederlo tutti quanti insieme. Fatto anche quello da una parte, no, c'aveva un motivo e il fatto di giocare insieme a un gioco dell'orrore ti riporta la sensazione di quando lo facevi coi film. E quindi da parte poi aiuta pure a sdrammatizzarlo, no? Perché fatto con Nightmare, sì. Turing recentemente al cinema, indipendentemente da quello che pensate del film, che per me è comunque un buon film con delle tecniche molto scolastiche ma che funzionano benissimo. C'era la gente che usciva dalla sala e rideva: ah, ho visto questo film, fa ride. Sì, fa ride per isteria, perché cioè nel senso che no, io il trailer l'ho visto così di quel film. Perché stavo andando a vedere che guarda che non è quello che si vede, eh. Cioè, non lo so, io ho visto due pezzi, ho fatto col cazzo, vado a vedere col cazzo e vedo il trailer, stavo così. No, bel film, a me è piaciuto. Sì, ma no, ma io mica per niente, ma io ancora l'esorcista non ancora l'esorcista non L'esorcicio mi ha terrorizzato. A me anche la copertina dell'esorcista mi dà già problemi, quindi però quello perché so tematiche che no. Magari quanti anni c'hai, Simone, tu? 29. Ah no, vabbè. 29. Quindi ma da quando? Generazione ci hanno avuto da 29 anni, perché no, a me dicevo. Non eri più piccolo di me. No, vabbè, niente. No, caro Biggio. No. No. Sì, solo me li porto male. No, te li porti bene. Me li porto bene, anzi, ma va bene. Posso dire? No, hai interrotto Vizzi, guarda, se diciamo c'è la mia generazione con l'esorcista hanno un problema, perché quello che noi vediamo oggi come regolamentazione televisiva una volta non c'è stava. E quindi io mi ricordo che avevo 12 anni o 13 anni, l'esorcista a casa di sera alle 8 e mezza su Italia 1. Ma forse Canale 5, quello che era, insomma, un film per famiglia. La rete ammiraglia, Canale 5. Cioè, capito quello che voglio dire? Quindi alle 8 e mezza, capito? Questa qua, mamma, ho letto se vuoi. Che sei matto? Che no, non scherziamo. Adesso che cazzo l'ho fatto? Cioè, non l'ho potuto vedere per 20 anni. Da quel momento che gli è venuto voglia di fare i podcast. Io esatto. La vera fonte terapeutica. Perché in realtà per me il podcast è una fonte terapeutica. Cioè, a me sto film mi sta bene. Lui ha scritto, gli ha fatto a me sto film. A me sta bene. Faccio un podcast, quindi che non gli sto, non mi sta bene. Eccetera, eccetera. Ok, non metterlo inclinato perché abbiamo in diretta. Non metterlo inclinato. Lascia stare. Cosa che il microfono e noi ci abbiamo avanti con la scaletta, che sennò il Cesare mi si annoia. Ma io sto Cesare ascoltando. Poi c'è, allora. Posso chiedere Cesare quanti anni ha? 18, quasi 19. Che ascolta, da dove chiami? Che culo. Da Milano. Dalla provincia di Brescia. No. È la sciarpa. Quando l'abbiamo fatto entrare, gli abbiamo chiesto subito quanti anni aveva, perché dovevamo abbassare la media dei conduttori del podcast, no? Ma ricordiamo anche che Cesare Girardi è venuto con noi alla Games Week, poi è venuto con noi a Neofonismo perché si è fatti i cazzi suoi, no? Sì. e anche grazie a Dio da una parte, perché comunque c'è anche messo delle pezze. E è stato: allora Cesare, vuoi venire alla Games Week con noi? Sì, ok, allora proviamo a farti prendere l'accredito stampa. Ah, Cesare, c'è l'accredito stampa. Boom, già se lo stava bene su internet. Come se lo stava bene? Non è vero, smentisco. Cesare, queste cose da un uomo del nord io non me le sarei mai aspettate. Comunque. Cioè, da me se le aspettano tutti. No, da Simone Cognome io mi sarei aspettato. Anzi, che ne faceva delle copie, le plastificava lui e le vendeva, esatto, anche se non valide. Quindi, esatto, delle copie per free, poi. Ecco. Che è la trasmissione dove ti invitano soltanto il momento in cui sono morti tutti intorno a te. È vero. Non c'è nessun altro che può andare. Ma povero Simone Cognome. Ma non è comunque vero, non è vero. Grande Bruno, salutiamo Bruno Barbera. Ciao Bruno. Che conduce con me. Che è la trasmissione che ti chiamano. Allora, a parte questi déjà vu, io direi di passare dal il gioco che tutte le camicie quando è estate odiano, ovvero Alone in the Dark. Che ne sembra di questa che si fa pipì sotto al buio, no? L'Alone in the Dark. Il terzo Alone in the Dark. Io ho sentito invece il primo. Il primo, ragazzi. Sono molto più. Non fare cose. Quella famosa scena del mostro che ti cazzo dalla finestra. Bravo, la prima scena. È molto bella la scena del cazzo che entra dalla finestra. Ma vabbè, è quella del granchio cameriere. Il granchio cameriere. Sei pure un cretino, sì, diciamo. Sì, sì. Perché che ho detto? Abbiamo parlato di Alone in the Dark proprio nell'ultima puntata di Calavera Caffè, che abbiamo parlato delle avventure grafiche di paura. perché in effetti ci sono dei meccanismi di gameplay molto particolari. Oggi a rivederlo quel gioco tutto in grafica vettoriale fa paura, cioè, per altri motivi, esatto, cioè, nel senso, però voi dovete contestualizzarlo all'epoca in cui ci giocavamo col 386 e quindi la potenzialità grafica 3D erano quelle, ed è stato uno dei giochi che ha introdotto una concezione anche cinematografica da un certo punto di vista, quindi le inquadrature. Ragazzi, era un gioco che aveva dei meccanismi a livello proprio scenico e di gameplay che ti faceva cagare. Oltre che era difficilissimo. Cioè. Sì, ma tu non eri mai al di sopra dei mostri, anzi, eri molto in inferiorità anche come potenza. Ho tutto. Eri precario, eri, sì, perché, esatto, eri a contratto a progetto. Non era possibile proprio materialmente sconfiggerli, dovevi scappare o trovare espedienti. Mi ricordo quante munizioni ho sprecato nella stanza subito dopo a quella iniziale, quando c'erano due mostri che per sconfiggerli dovevi semplicemente poggiare degli specchi, perché rispecchiandoci, ah, sì, avendo, sì, la loro immagine, solo in quella maniera morivano. Non so se te lo ricordi. Sì, sì. No, io nello specifico ho messo il terzo. Il terzo era quello nel West, mi pare. No, era quello dentro sull'isola, che si paracadutano Carnaby e Cedrak, la ragazza, e poi giocarla in tutte e due le... Ah, quello l'ho fatto su PlayStation 2. Allora, quello era... Sì, io, sì. Mi sembra, no, su PlayStation 1. No, su due. Quello che c'era lui col trench, tipo... Sì, guarda, due. Ecco, quello è uno di quelli che, scusa, che hanno sperimentato su di me e farmi saltare. Perché avevo due CD. Era su due CD quello che avevo io, quindi penso fosse su PlayStation 2. PC? No. Comunque, in ogni caso, per quello che era, il primo CD era proprio dentro la villa. C'erano enigmi belli ignoranti, e poi era proprio bastardo. Usa la luce pure. Sì, era proprio bastardo, perché tu entravi dentro la stanza vuota, colpo proprio di tuono, luce che vanno via, si riaccendono le luci, 200.000 mostri intorno e tu che spari. Poi, altra volta, si va via la luce, bestemmi. Va via la luce, ritorna la luce, non c'è nessuno, quindi hai sparato, hai buttato dei colpi a sbafo. 95, e, quindi sì, PlayStation 1 mi sa. PlayStation 1, e te la sei anche fatta addosso nel frattempo. Dopo che no, non c'era su PlayStation 1, scusa, adesso ti interrompo continuamente. Perché stai vaneggiando, Simone Cognome? Quindi Dark 3, MS-DOS, MacOS e Microsoft Windows. Infatti ho detto che secondo me era un altro. Vabbè, non l'ho giocato, sempre la serie non è andata. No, aspetta, per PlayStation non era il 4, tipo. Esatto. Mo mi viene. No, so, dire... PlayStation 1. Sì, PlayStation 1, PSX. Mi pare che fosse The 4. New Nightmare. Esatto. Lì. Perché allora la tecnica di Alone in the Dark, che era basato, diciamo, era brutto, a parte quello, no, sulla roba di Lovecraft, quindi dove i mostri sono 100 volte li omaggiava, ma per sì, li omaggiava, licenze, esatto. Non poteva, no, prima, no, no, prima era licenziato la cosa, sì, sì. E quindi che c'aveva tutti i diritti E quindi invece... questi simpaticoni hanno messo i nemici che sono fortissimi, tu che fai schifo, stile miti di Cthulhu, diciamo. Comunque il secondo CD invece di quel gioco, sempre del terzo, invece era una cagata immane, perché praticamente andavi nel mondo di queste creature, lì diventava proprio un action adventure proprio. Un action adventure. Hai giocato? No, purtroppo no. Non giocato un cazzo. Ragazzo impreparato. Sì, sono molto impreparato. Diciamo che sono troppo giovane per aver giocato. Recuperare, perché questa è storia ed è importante. È molto importante. Sì. Se invece volete la storia dei videogiochi, dovete ascoltare Retrocast, ad esempio. No, oppure Archeologia videoludica. Se vi volete male. Oppure qualche puntata speciale di Free Play. Intanto Giuseppe dalla chat ci dicono Luca Santillo. Come lo ricordate, mi hai detto enigma degli specchi quando non c'era internet per controllare? Eh sì, infatti mi ricordo che per risolverlo questo qua lo trovai nell'allegato delle soluzioni di Games Machine. Bravo. Ecco, ma Mr. Newbie Z, K e The Game Machine sono le soluzioni. Quindi ci campavano quando è arrivato internet, è stato un macello. E c'era un periodo, forse questo è retroludico storica West Feathers. C'era un periodo che a K c'era il numero telefonico a Milano che li potevi chiamare quando non riuscivi ad andare avanti. C'era anche il PC Game 144, il primo 144. Non so se era 144, io mi ricordo che andavo sotto la metropolitana di San Giovanni, perché se mia madre sapeva che telefonava a Milano così. Andavo sotto così, questa mazza dei gettoni, tru, e quello pronto, guardi io ad King's Quest 5, non riesco ad andare avanti, dove sei? No, io mi ricordo in PC Gamer, avevo chiamato per avere i codici di, aspetta, come si chiamava? Constructor? Construction? Ma non mi ricordo. Tu il God Mode volevi? Non avevo voglia di fare i soldi nel gioco. Come cacchio si chiamava quel gioco? Construction, mi pare. Boh. Ma non mi viene in mente. Comunque, un gioco di merda, mi chiedo perché ho speso dei soldi su quello. Comunque, ok. Tutto bene. In ogni ma tante caso. Volte ci siamo chiesti perché ci avevamo l'Inter Computer People, ad esempio. Sì, ma l'Inter Computer People è un grande gioco, però. Che volevamo arrivare un piccolo mino. Credendo fino alla fine che vivesse qualcuno dentro, sì, il computer. Vedi, quello lì sta dietro. Poi comunque il computer people ha sdoganato quello che poi è diventato come mainstream Sims. Sims. Sì, praticamente sì. È il Tamagotchi elettronico. Il concetto era umano. C'era Little Computer People e Little Computer Dog. Little Big Planet. Ti ricordo. Computer. Computer, Little Computer Big Planet. Dark? Allora, se sono in The Dark, io mi ricordo il primo lo giocosse mio cugino su 386, suppongo. Sì. E vedo le prime scene, ma io era il momento un po' pauroso di mio. Era lo stesso momento dove davo il film. La versione paurosa di me, è fantastico. Esatto. No, era ancora di più, Marco. Cioè vedevamo Nightmare insieme in 10 persone. Diventava Nightmare. Esatto. No, io me ne andavo, però. Cioè, mi alzavo a un certo punto quando sentivo delle cose, me ne andavo. Stavo di là, aspettavo la scena. Vedevo solo le scene brutte in Nightmare, quelle dove non succede niente. Beh, Nightmare e... scusami, il primo ce ne sta uno o due che è arrivato Andmind, scusa. Vince è l'ascoltatore di Free Play. Dove invitano proprio quando c'è stato un olocausto nucleare. E anche Eugenio Palumbo che dice: basta, grande Free Playing, invitate anche Davide a questa puntata. No, Davidone, voglio bene, Davide mi sta simpatico, però no. Oh, è caduto Davide, sa che c'ha un po' di febbretta. Come è caduto? È caduto in guerra, è caduto in battaglia. Guerra, esatto, mi sa, anzi, un bacio a Davidone. È caduto sul carrello, e... il carrello come sta? Esatto, il carrello sta benissimo. Okay. E dicevo, quindi era lo stesso periodo dove davamo, tra l'altro, pure a Dario Argento. C'è proprio mio cugino e lui è continuato, era un piccolo Dawson Creek dove adesso è, cioè, aspira sempre a fare regia, ma aspira alle canne, aspira. No, assolutamente no. Sì. Anzi, è uno straight edge. Sarebbe stato meglio comunque. Va bene, e dicevo, vidi Alone in the Dark, quello ho visto, quello, e poi ho giocato gli ultimi due, cioè The New Nightmare 4, okay. Per PC. No, io penso che tra gli ultimi due annoveri anche quello che era stato massacrato, quello per ingiustamente, posso dire ingiustamente? Anzi, parlane proprio perché per par condicio, perché parlare sempre di ingiustamente perché attuali. Ingiustamente perché quello è stato un buon titolo con dei problemi, ma secondo me un buon titolo, magari non hanno in The Dark. Cioè, fosse stato un altro, avesse portato un altro The Dark 4, quindi quello, no, quello là che poi è stato rimesso, quello, sì. No, quello a New York dove c'aveva pure la struttura non lineare che potevi saltare i capitoli, mi pare. Sì, era episodico, era bisogno. Che c'aveva praticamente l'inventario, la giacca. Era la giacca che tu ti aprivi l'inventario e c'avevi tutte le tasche, quello là. Pensavo avevi il pingone di fuori. E ti aprivi la giacca. I numeri cambiano a seconda pure delle console. Quindi... Che diceva Marco? No, il 4, io ho giocato su PC. C'è Bruno, attenzione, ha perso Bruno. Io l'ho giocato su... Coso? L'ho giocato su... su 360. Su 360 l'ho giocato quello. Mentre ho giocato su PC... mentre ho giocato su PC The New Nightmare, che però non ho finito perché praticamente non so non mi ricordo esattamente che errore avevo fatto, ma ci avevo tipo, ero andato un po' avanti, forse. Esatto. Cercato, non se poteva. Ero andato un po' avanti con tipo arco e freccia, una cosa del genere, cioè avevo... freccia. Ah, era... Oh mio, ragazzi, che ironia fortissima. Ok, allora stavo con una scarpa e una ciabatta, così si capisce la fattura. Salutiamo Bruno Barbera. Ciao Bruno, che è entrato in chat. Di che cosa? Di? No, adesso non dico, non lo dico. No, lo dico più, ecco. Caro Bruno, sappi che Simone ha parlato male dei free playing fino adesso. Cioè, esatto, ho detto delle cose. No, non ha detto male, ha parlato male di free playing, esatto, ha parlato male di Bruno. Soprattutto. Allora, io mi inserisco a gamba tesa per dire che Mafio Nikoku chiede se ci ricordiamo della serie di Gun Survivor, del primo Resident Evil di per PS1. Io me lo vorremmo ricordo. Vorremmo dimenticarlo tutti. È stato sì. Grazie, è uno... ti hai ricordato sta cosa. Immagini che riconciliano con la morte. No, eppure dai, esatto. Quello per PS2 era un po' meglio, mi ricordo. Sì, ma fatelo parlare, però. Vai. No, io non dovevo più dire niente, quindi potete parlare. Allora sì. parti da Cesare sempre, perché. No, povero Cesare. Ti ricordi della serie Gun Survivor? Per PS1? No, mai giocato. Me ne ricordo assolutamente. Purtroppo, come al solito, direi, non l'ho giocato per questioni di età. Scusa Cesare, ma però mi ricordo. Fa piacere. Esatto, la prossima volta mi preparerò meglio. Ma però scherzi a parte, mi rendo conto che la maggior parte di questi giochi sono legati a dei momenti che per voi sono molto nel passato, diciamo. Quindi ho la sensazione che il fatto di essere spaventati da un gioco sia molto più probabile che avvenga appunto nell'infanzia o comunque in giovane età, indipendentemente dai giochi stessi. Ho questa sensazione. Beh, quindi se io è cambiato un po' il modo di spaventare, è cambiato la generazione, probabilmente questi giochi oggi, anche riproposti con la tecnica di oggi, probabilmente non farebbero manco più paura. È tutta una merda. Non abbedarda. Ticcialo. Ad esempio, io mi posso essere spaventato con giochi, non lo so, della PlayStation 2, perché ero, non lo so, andavo alle medie o alle elementari. E magari con gli stessi giochi voi ci avreste fatto una risata sopra. Cioè, è proprio un diverso modo di approcciarsi allo stesso mezzo, che dipende dall'età. Quali sono i giochi che ti hanno spaventato? Io mi ricordo uno sparatutto in prima persona, che era Judge Dredd, un gioco semi sconosciuto, che io non riuscivo assolutamente a giocare, riuscivo a giocare solamente in cooperativa con mio fratello ai tempi, perché mi sembra ci fossero un po' di zombie, un po' di creature strane, già solo quello ai tempi, io ero abbastanza piccolino, mi spaventava. E quindi... Cesare, se riesci però stacca Torrent, perché ti sentiamo abbastanza male. Chiudi sta porn, scaricando Obscur, cioè, scusate. Se puoi chiudere i porni te ne sarà una grande. Purtroppo stanno già staccati, quindi no. Ah, ok, allora niente, allora vai tranquillo, ok, va bene, non c'è problema. Ti ho interrotto, fallo finire. Giudice Dredd, c'erano i zombie. Esatto, era un gioco di merda. È già solo quello che adesso, ripensandoci, probabilmente sarebbe una cosa così minima, una cosa che non mi farebbe mai spaventare. Al tempo mi spaventava a volte e non ci volevo quasi giocarci. Beh, c'è gente che si è spaventata per quel gioco. Vabbè, non lo prendo in giro. Simone si spaventava a giocare a Defender of the Ground. Infatti, io. È normale, per forza. Se uno è giovane, se uno è piccolino, a una certa età è molto più suggestionabile. Quindi anche dei piccoli stimoli possono spaventare molto di più. A me faceva paura Doom. Ma anche a me è Doom. Ah, ecco, Doom pure. Insomma, diciamo che. No, Doom 2 a me faceva molta paura. Volevo giocarci, ma non ci riuscivo, ad esempio. Addirittura. Beh, Doom. Dai, mi metteva troppa ansia per giocare. C'aveva Doom, è vero. Anche Hexen, Quake a me, vabbè, però quella è una cosa. No, Quake no, Doom di più. Sì. Quake, Doom. Ma pure Quake è più orrorifico. rispetto a quello. Però sì, Doom era peggio. Doom era peggio. Ma pure Xen non era malaccio. Cioè Xen. Sì, c'era pure Blood che faceva paura. Cacchio, Blood sì. Con quelli che poi ti metteva angoscia che quelli li ti infuocavi con la pistola che infuocava e ti correvano appresso infuocati. Cioè, mamma mia, Cesare starà pensando questi che cazzo, ma que- sti vecchi sentite che stanno a parlare. Cazzo, oh, dai, cioè, infuocati. 4 ve- 10 anni meno di me, dai, non è così più giovane, cioè circa, dai. Beh, abbastanza, diciamo. Dai, sì, a parte che io 10 anni sapevo leggere e scrivere, stavo parlando di Cesare con media. La capoccia cosa mia e l'età tua. Esatto. Cesare, la mia mente, Cesare il braccio, io la mente, capito? Se avessi 18 anni con la testa di oggi, esatto, vabbè, ci sarebbero ancora le mezze stagioni adesso. Solo mezze stagioni, solo mezze stagioni, sì, esatto. Diventano 24 stagioni. Se volete sentire la volgarata della sera, io mi ricordo che c'era il guardiano del villaggio dove andavo io al mare. E diceva: io se fossi una donna andrebbe in giro col materasso collato alla schiena e ogni volta vedevo uno buono pa per terra. Complimenti Simone per aver abbassato il livello di questa discussione. Esatto, perché lo stavo per fare io, lo stavo per fare io, non preoccupare. Saluto ovviamente il guardiano del fatto, da ovunque sia. Probabilmente comunque sia, con un materasso qui, con un materasso incollato alla schiena, esatto, magari sei rincarnato. No, Cesare, ma cosa ti faceva paura di questo? No, volevo sapere cosa ti faceva paura di questo giudice Dredd, perché Dredd in linea di massima. Beh, Stallone già così di botta. Sì. Con la bocca storta. Già il film. No, cosa ti preoccupava, Cesare? Nello specifico? Mi preoccupava di più in quel gioco. Sì. Io l'ho rigiocato, l'avrò rigiocato l'ultima volta, boh, ormai anni fa, quindi lo ricordo abbastanza vagamente. L'hai voluto da psicanalisi. Sì, esatto. E, ricordo più delle sensazioni, alcuni particolari, non ricordo il gioco adesso nella sua interezza, purtroppo. Mi ricordo semplicemente che dalle sezioni più tranquille, dove non lo so, si sparava e si catturavano dei criminali normali, quindi delle persone, non, la cosa non mi spaventava. Si passava dalle sezioni più scure, più in zone più strette, contro extracomunitari, sì. Esatto. Eri spaventato dagli extracomunitari, dai, lo sappiamo. Dio, Sardegna un paio di settimane fa per me era come essere circondato da tutti i bigio. No, non è vero. Sei andato al nord, quindi io non c'entro niente con quella zona. Per me è sempre sardo, capito? Tra l'altro, no, una simpatia che te... immagino, Pizzi, non preoccuparti. Comunque. E quindi no, per chiudere, diciamo, questi cambi da dei momenti in cui si sparava dei cristiani ad altri in cui si sparava dei morti che camminavano, già solo l'idea mi spaventava. Mi rendo conto che a guardarlo adesso la cosa sembra un po' così strana, però diciamo che nell'ottica di qualche annetto fa la cosa era più difficile da reggere, da sopportare. Era un po' particolare come gioco per me, mi ha segnato un po'. Addirittura. Beh, e si vede, sì, e si vede. Direi di sì. Avete qualche gameplay su YouTube? Perché sì, il fatto che me lo ricordi ancora, dato che comunque i giochi in mezzo ce ne sono stati tantissimi, e mi ricordo ancora delle sezioni proprio precise, delle parti di livello, così vuol dire che mi ha segnato veramente. Devi provare a rigiocarlo adesso. Sì. Un po' di passo. Dovrei rispolverare la PS2, ritirarla fuori dall'armadio. Mr. Newpick invece suggerisce a Simone di piazzarci l'aneddoto del Vic 20 che dice che più horror di quello proprio no. Ma Newpick è Cristiano Caliendo, giusto? Sì, esatto. Che salutiamo. L'uomo che abbiamo importato. Ma salutiamo un'altra volta. Ciao Cristiano. È stato un bel lavorare. Comunque, no, dici l'aneddoto del Vic 20. No, abbiamo detto 30 volte su Archeologia Videoludica. Ma chi lo ascolta Archeologia Videoludica? Quindi dillo anche qui. Non è mica fare classifiche che dicono il contrario. Queste classifiche sono come i sondaggi secondo Berlusconi. Cioè, questi sondaggi sono sfalsati. O io e i miei sondaggi. Quindi non preoccupatevi. Tu telefoni personalmente alla gente. Ma tu porta avanti la trasmissione. No, vabbè, allora io porto avanti ciò che voglio. Mm-hmm. Ad esempio, prima, salutiamo i 500 like sulla pagina dell'archeologia. 554. Ormai sono diventati pure 554. Abbiamo sfondato, pensavamo di arrivare a 500 a Pasqua, invece siamo arrivati prima. Quindi noi puntiamo ai 1000 per Natale. Ti è? È impossibile. 1000 like. Comunque, io direi di passare al prossimo gioco. Il prossimo gioco in questione è Clock Tower per PlayStation 1, il remake di Clock Tower per Super Nintendo. Sì, io ho giocato a quello per PlayStation, infatti. Mai sentito proprio. Anche io, e poi ho giocato, cioè, però poi ho scoperto dopo quello per Super Nintendo. Allora, Giuseppe, vuoi cominciare tu, visto che l'hai prodotto? Allora, magari parlo di quello per Super Nintendo e tu parli per quello della PlayStation. Va bene? Esatto. Va bene, allora, Super Nintendo, così puoi dirlo, dico le differenze con quello per PlayStation. Esatto, in linea di massima è un gioco che si svolge tutto in una magione, in una villa abbandonata, no, non abbandonata, come si dice? Che, diciamo, se mi ricordo bene, anche in quello per Super Nintendo, te sei una ragazza, sì, che viene, una ragazza, viene adottata da questa famiglia, va a vivere in questa villa, poi succede qualcosa, no? Sì, succedono una marea di problemucci, tipo che la gente muore, e ti rendi conto che c'è un nano gobbo storpio, tipo me, insomma. Biggio. Ecco. Con un paio di forbici. Con un paio di forbici gigantesche che sta ammazzando la gente. E il gioco è interessante perché, a differenza di altri giochi, tu non hai la possibilità di combattere contro il nano direttamente, quindi puoi scappare. In Italia questa cosa non puoi combattere contro il nano, non c'è possibilità. Esatto, più o meno siamo lì. Non è che potrebbe essere una metafora, una metafora in Italia. Esatto, prima esatto. Hardcore Work Tower. Ricordiamo che tutto questo gioco non era tipo il survival horror sullo stile tipo The Resident Evil, perché essendo Super Nintendo specialmente, era più tipo un'avventura grafica, se ricordo bene, con sì, un sistema sì, di sì, clicca. No, allora tu ti spostavi con la ragazza direttamente e avevi anche sì, un sistema simile punto e clicca, e in più avevi anche un sistema di tra virgolette di paura, sì, per il quale se accadevano troppi eventi terrorizzanti la ragazza cadeva, inciampava e di conseguenza era infatti più anche, facile. Stefano, anche il gioco che abbiamo citato prima, Hunting Ground, era molto simile, perché sì, tu potevi scappare, a un certo punto andava in panico. E quindi cominciava a correre a casaccio, a cascare per terra, sì, una cosa. No, poi mi ricordo che la cosa bella è anche che c'era sia nella versione per Super Nintendo che per PlayStation, è che i punti in cui per esempio spuntava questo nano maledetto erano diciamo Roma, non so, ti ricordi? Antigua, leggiamo nel pensiero, Stefano. Ormai. No, dico, non è che sapevi che ogni volta che andavi in quella stanza, dopo aver fatto quella determinata cosa, ti spuntava quel personaggio, no? No, esatto, cioè avevi una serie, cioè potevi fare determinate cose, e soprattutto erano stronzi perché te lo facevano apparire spesso in punti che sembravano assolutamente tranquilli. A un certo punto ti vedevi sbucare da dietro uno scatolone, così a cazzo sto nano, e tu dovevi scappare sperando che la tizia non impazzisse, con il controller del Super Nintendo in più, sì, nella versione Super Nintendo, quindi non perfettamente adatto ai punti e clicca, e in più col fatto che era un gioco particolare, perché per Super Nintendo non ci sono giochi di questo tipo, cioè la cosa che più si avvicina penso che sia SimCity 1, cioè comunque i punti e clicca o i simili punti e clicca per Super Nintendo non ce n'erano. E, insomma, un gioco con una grafica stupenda, secondo me, musiche fantastiche, e da cui poi secondo me comunque ha preso anche morti cruente, se ti ricordi. Sì, no, era un bello, c'era solo questo mostriciattolo qua con le forbici, ma c'erano anche delle varie, diciamo, tipologie di mostri o fantasmi che potevi anche sì, no, era scappare durante l'esplorazione. Era un gioco adulto, diciamo, nonostante la piattaforma, soprattutto nonostante la piattaforma Nintendo, quindi so. E poi mi pare che pure anche nella versione Super Nintendo erano previsti pure finali multipli, mi pare. Sì, mi pare che ce ne fossero 4, ma adesso non sono sicuro. Boh, comunque. La decadenza, sì. L'arresto, no, sì, e poi c'è i servizi sociali. La prescrizione. Voto palese adesso. Voto palese, cose così. La era invece quello finale UFO. Sì, esatto. Potevi ci arrivare, però ti sono pavimentato il gioco. Comunque, detto ciò, io passerei quindi alla versione per PlayStation, che io ricordo di aver visto nelle copertine. La versione per PlayStation aveva, sì, diciamo, la grafica e il sistema di controllo, anche in quel caso pure simil punta e clicca, solo che aveva un setting un po' diverso, perché mentre quello per Super Nintendo era di tipo la ragazza tipo c'aveva il kimono e quindi sembrava più un setting orientale, se ti ricordi, sì. Là invece era più ambientato, più moderno ai giorni nostri. Minigonna. Sì, esatto. Giapponese, aveva la gonna da studentessa. E poi mi ricordo pure che era tipo divisa in tre parti. C'era l'inizio, dove appunto tu era tipo la classica, potrebbe essere la classica ragazza tipo che stava in un dormitorio di un college, e là c'era il primo incontro, se ti ricordi, con Sister Man, l'uomo forte. Era quello dei forbicioni, che ogni volta che appariva, esatto, sentivi. Dove riuscì a fuggire. Poi c'era una certa sequenza narrativa con alcune immagini fisse, dove ti chiedevo a un certo punto quella misteriosa statuetta dove volevi inviarla, infilarla a due personaggi diversi, e dovevi ricordarti di questa scelta, perché poi lui ti diceva: bene, ora dove vuoi andare a investigare? E se sceglievi ovviamente lo scenario dove non era presente la statuetta, poi in realtà il gioco si fermava qui, nel momento era già un game over prematuro. E solo la terza e ultima parte del gioco era invece ambientata in quella villa ricreata appunto come il primo gioco originale, una sorta di versione estesa. Sì, esatto. E anche in quel caso, come dicevamo, c'era il fatto che la presenza di questo Sister Man che spuntava appunto quando non te l'aspetti, dovevi scappare, o addirittura in alcuni punti potevi anche nasconderti interagendo con gli oggetti, tipo entrare dentro l'armadietto. Questo lo potevi fare anche nel primo, in effetti, me l'ero dimenticato, ma no, era comunque abbastanza terrorizzante. Era comunque anche per PlayStation 1 molto terrore, infatti, cioè, per me tutti questi giochi dove ci può essere l'imprevisto di un mostro invincibile che spunta così all'improvviso, che sono anche il Nemesis di Resident Evil 3, che hanno sempre messo molta tensione. Tipo lo Slenderman. Sì. Lo Slenderman è tremendo. Infatti Slenderman io non lo gioco perché morire di infarto subito. Ma proprio all'improvviso davanti. No, ma a me fa paura l'ambientazione. Non lo gioco perché lo giocano tutti nel mondo su YouTube, quindi non lo gioco. Basta. Ecco qua, è troppo poco indie per te. Cioè, lui è anti. Me le offrono tutte così. Dai, ormai sì. Poi meno stream, poi magari si perde dei capolavori infiniti, però lui. Comunque, detto ciò, Cesare, PlayStation 1 ci sei passato, sì. Sai cos'è? È una grigia. Mi potrai offendere. Quella PS, se ti ricordi, nella PS1. Ma me dicevo proprio quella classica, cioè. Sì, con questa battuta mi potrei offendere. Vabbè, dai, ascolta, nei macchine cannato 5 su 5, adesso ti ricordo che te lo chiedo. No, nel senso, no, nel senso, bello che fa i bulli con uno più piccolo, capito? Non è che tu dici, cioè, ma fai sboloni, capito? Cioè, ma c'è la macchina PlayStation 1, va per sempre. In realtà a Natale gli compreremo una PlayStation 1. Esatto, no, solo perché PlayStation 1 che stavo cercando di dire ho avuto, ragazzi. Che hai avuto? L'ho avuta. Ah, ce l'hai avuta. No, è Clockwork Tower, sì. C'è giocato, lo conosci, l'hai conosciuto. Clock Tower l'ho conosciuto perché, se non sbaglio, non ci ho mai giocato purtroppo, però me ne aveva parlato un amico con dove ci giocato due giorni, tipo The Ring, perché non ha copiato il CD del gioco, quindi ha passato una copia, esatto, da Cesare. Perché si potevano masterizzare i giochi per PlayStation 1, quindi certo, quanti ma perché c'erano gli originali, scusate. Io non sapevo, pensavo che li vendevano in Italia. Li vendeva perché era scusa, tu vai al negozio. Cioè io l'ho sempre comprati al negozio i giochi. Questa è una battuta che è uscita su Freeplay. Comunque, no, vabbè, stavo dicendo, questo gioco qua me ne aveva parlato questo amico ed era rimasto abbastanza sconvolto perché perché gli faceva veramente paura, appunto. E, sempre per il solito discorso, direi, per il fatto che... Quindi non ci ho giocato assolutamente. Beh, PlayStation 1 l'ho avuta più o meno quando avevo 6-7 anni, non credo prima, e mi ricordo andavo avanti a Crash, Final Fantasy, Spyro e giochi del genere, quindi giochi horror da 6 anni. Direi che è meglio quel tipo di gioco a 6 anni rispetto a Clock Tower, decisamente. Esatto. Condivido la tua scelta. Ma secondo me 6 anni manco devi contare, non sapendo l'inglese poi a Clock Tower, ma che ci facevi? Clonoa. Qualcuno è caduto però, eh. Non è caduto. Ah, forse Simone cognome. Mi stavo soffiando il naso, ho staccato un attimo. Ah, ok. E vabbè, ma puoi anche farci vedere mentre ti soffi il naso. Che pesci dall'hangout. Eh no, ma si sente se tolgo la... No, togli il microfono ma non togli il video. Ah, eccomi. Ecco, adesso ci fai vedere come... ti soffi il naso per bene. Oh, eccolo. Simone, tu sto knock clock qua. Cioè, aspetta, che si sta soffiando, sta vomitando adesso. Aspetta, aspetta che rimuovi. È il bello della diretta, come diceva. E purtroppo la sua anoressia lo porta a fare questa cosa. Dicevi, sono diventato un figurino. No, fuori di vomitare, sì che diventi un figurino. Bravo. No, è la gastrite che devi ringraziare. Ti fa mangiare. Ma che cosa sono? C'è un fantasma. Cesare, quando lo tu potete parli mutare, lo amico, potete anche mutare, devi stare, devi togliere il suono. Lo puoi mutare, guarda, l'ho mutato, credo. Ecco qua. L'hai mutato. Io lo puoi smutare. Io gli rimetto la voce. Ah no, non posso farlo. Lo può fare Dio, penso. E perché tu sei Dio? No, e io lo se l'hai rimesso, vedi? Ah, no, ok. Sì. Mi avete ammutolito. Cioè, abbiamo ammutolito momentaneamente perché sentivamo le voci. Clock Tower, io dicevo che. Scusate, no, c'è qua un mio amico, come vi ho detto all'inizio, mi stava facendo notare un paio di giochi interessanti PS1. Perché sennò se noi ci preoccupiamo, chiamiamo veramente la psichiatra. Ma esiste come gira il monitor? Esiste. Ciao amico. Ciao amico di Cesare. È vero, bravo. Che sennò se tu quanti anni hai, amico di Cesare? Che domanda è 4. Quanti anni hai, bella bambina? No, amico 91. Sì, porta bene però. Ah, 19, bravo. Voglio dire, come ti chiami, bella bambina? Ugo. Simone. Come si chiama Simone anche lui? Simone. Vabbè, dai, ma che schifo. Basta, fantasia dei nomi proprio, ragazzi. Fantasia, portami via. Comunque, riprendi il controllo. Bim. Sì, no, allora, quali sono questi giochi che ci consigliavi, Simone 3, a questo punto? Perché... Sì. Cioè... Allora, c'è un'avventura in 2D, un platform che si chiama Heart of Darkness. È vero! È bellissimo. Molto bello. Il flashback Another World, tra l'altro. Sì. Anche molto ostico, se mi ricordo bene. Difficile, io l'ho finito una volta per miracolo su 2 CD, mi pare, giusto? Okay. Sì, era su 2 CD per PlayStation 1, ricordo. Ma scusa, ti faceva paura Heart of Darkness? Eh sì, anche io ero piccolino quando lo giocavo. Ah, sai, poi con tutte quelle ombre che sgusciavano. Che era l'atmosfera. Nonché era un bel gioco. Era un bel gioco, è uno dei primi in 2 dischi, se non mi ricordo male. I famosi 2 dischi, anche perché era un formato speciale che già solo lui. Anche se sto malato, ragazzi. Tu usavi il vinile anche per esatto. Il esatto sul vinile, quindi. E tu dici adesso sto suonando questo gioco. La PlayStation era più o meno così. Sì, suonavi i giochi. Esatto. E scusa, l'altro gioco invece? L'altro gioco è un classico, è Oddworld e i Body, sì. Che però su paura magari ma... no, più desolazione. Attenzione, basta, ride, hai riso te con la gente che era cucita sì, e occhi e bocca, capisci? Però io non c'avevo, cioè a me era quel cinismo un po' così. No, era cupo, come gioco era cupo, dovevi salvare la tua razza, dovevi c'avevi l'età per comprenderlo forse. Sì, per quello che mi faceva venire una tristezza maggiore, secondo me, proprio perché lo capivi. cioè erano dentro dei lager. Se c'è la ragazza tua all'altra stanza, può intervenire pure lei. Facciamo intervenire pure il papà di Giuseppe. Che le ho messo le cuffie. Niente, non c'è so niente, va tutto bene. La vomitare poi. Ah, va bene, adesso devo vomitare un attimo. Torna su. Vabbè, ragazzi, io cerca di portare a termine questa trasmissione. No, ok, sto qua. Scusa, io stavo guardando Simone che vomitava. Grazie. Comunque, poi ecco, qui è stato votato molto, cioè molto, abbastanza, direi. Zombie U per la fortunata console Wii U. Cos'è questa ironia? No, per carità, a me dispiace, io sono stato... L'ho votato pure io, a me è piaciuto, ricordiamoci il gioco che mi ha spinto a comprare la console a me. Uomo fortunato, e perché ti ha fatto davvero paura? Di faremo un video presto, quindi... Della console. Di cui faremo una trilogia di episodi. No, ti ha fatto davvero paura il gioco? No, perché paura metteva comunque l'inquietudine, perché sapendo che se tenevi al tuo personaggio, nel momento in cui ti schiattava, era morto. Ma chi è che sta facendo... Ah, non c'è spinto il microfono, scusa. Vabbè, ma che cazzo, cioè, veramente una cosa. Simone, invece che fare casino, cioè gioca sono contro fermo, sono fermo, no, sono incartato. Se ve lo devo faccio vedere, ce l'ho incartato. Sì, l'ho trovato a 8 euro su Amazon e l'ho tenuto incartato, perché io con la magia Nintendo non posso sporcarla. Mm-hmm. Posso sporcarla giocandoci. Cioè... Allora... Posso ritornare? No, prego. No, diciamo, era quell'inquietudine che appunto viene con quei giochi dove solitamente c'è appunto il permadeath, come anche ho citato Dark Souls, Demon Souls, no? Che praticamente appunto se quando meno te l'aspetti c'è sempre anche in Zombie U qualche zombie che ti può fare la pelle, insomma. Anche perché là, come nei vecchi survival horror, una volta che avevi ripulito alcune stanze non era detto che poi le ritrovavi appunto vuote, ma potevano tornare. Cioè, c'erano momenti, cioè, mi ricordo la cosa che mi ha fatto proprio saltare così dalla sedia la prima volta, è che verso l'inizio del gioco, una delle prime missioni, ti manda ad hackerare una telecamera in un supermercato. E praticamente la persona che ti guida fino al supermercato, che ti parlava attraverso il gamepad, ti dice a un certo punto: ecco, questo è l'ingresso secondario del supermercato, apri la porta ed entra, no? Solo che sto stronzo. Mi stai per far spoilerando, ecco. No, sto stronzo praticamente si era dimenticato di dirti che non aveva disattivato l'allarme. Quindi tu vai per aprire la porta, scatta l'allarme, quindi non te l'aspettavi già sta cosa. E poi, ovviamente, il suono dell'allarme attirava tutti gli zombie. E non me l'aspettavo. Tutto è anche un gioco dove se provi a barricarti, a chiudere le porte, gli zombie te le aprono, te le buttano giù e continuano ad attaccarti. Quindi, insomma, c'è sempre tutto quell'elemento di essere indifeso, di inferiorità numerica che, insomma, mi ha fatto venire, dovuto sempre mantenere viva l'attenzione. E alla fine? La bambina muore. Ma poi muori anche tu in questo gioco. Ma e quindi permadeath, sì. E quindi ansia, oltre che dal gioco, sì, anche esatto. dal fatto che... Da prestazione. Sì, esatto. Perché l'inquadratura di Stefano se ne spa? Ecco. Perché io, sì, no, perché ho una webcam molto mobile, talmente mobile che, a me, Stefano, che si sposta. Basta che rimane comunque immortalato il microfono, bravo, il microfono esatto. Il lungino. Esatto, vabbè. Poi per il resto... Yar. Cesare e Simone, Ave Cesare, Ave avete Simone. Avete giocato a Zombie U? Tu Simone. Sapete che cos'è? Sappiamo cos'è. Ok. Assolutamente sì, ma Wii U ovviamente l'ho cagata di striscio. Anche giustamente. Sì, non hai tutti i tempi. Allora, e facciamo i podcast noi, vabbè. Siamo persone che perché dobbiamo fare i podcast, dobbiamo essere buonisti e universalisti per forza. Cioè. Tranne con che non abbiamo ancora nominato in questo episodio. Uno, due, tre, Mass Effect. Ce lo stavo per dimenticare. Il nostro sponsor. Meno male che c'è Giuseppe che ce lo ricorda. Esatto. Per alcuni è Squarespace, per noi è Mass Effect. Squarespace. Ricordatevi che free play non è gratis, neanche dietro il giro. Esatto. E neanche Digitalia, chiaramente. No, puoi dirlo. Comunque, quindi Zombie U, gioco il giocato per... di stasera è stato fatto con Squarespace, sappiate. Con Square Enix, YouTube e anche con la Square House. E Shadow House. Beh, c'è una gastrite, Simone, un po'. Ah, ragazzi, poi a fine trasmissione io e Giuseppe dobbiamo fare una sponsorata proprio di quelle. Devi uscirti il pesce, insomma. Ah, vabbè. Sì, sì. Comunque, quindi Zombie ho giocato solo da Giuseppe, in tutto il mondo, credo. Tra l'altro, sì. Sì, sì, l'ho comprato solo io. L'hanno fatto esclusivamente per me. C'è la. Io da quel poco che ho visto la Giuseppe Edition. Cioè, peccato che è rimasto limitato chiaramente al mezzo, perché insomma, in realtà il gioco sembrava caruccio. Poi, ovviamente, è anche un gioco che tecnicamente soffre anche. Come sto filando tutti i giochi che usciranno anche adesso al lancio per le nuove console, del fatto appunto di essere uno dei primi titoli per la nuova console, quindi per una console per cui ancora l'hardware non era diciamo stato spinto al massimo, per quanto secondo me il problema di quel gioco è stato il titolo. Sì, perché Zombie U mi fa venire in mente tutti i party game, tutta bravo, quella roba. Sì, mi fa venire in mente il gioco del ballo con Just Dance. Vabbè, thriller di Michael Jackson. Esatto, infatti si poteva essere thriller di Michael Jackson. Just Dance. Questo è stato il problema più grosso di quel gioco, secondo me. Diciamo che secondo me, a parte comunque la Wii che ha ridato vita a Nintendo, gli ha fatto guadagnare uno strafottigione dei soldi a livello di marketing. Io non ho, cioè, come Scafaro, questo gioco al massacro non ci sto. Esatto, non ci sto. Quindi vai. Non mi sta bene, ma tanto non gli sta bene, manco, perché tanto non gli sta andando bene. Io incrocio tutto. Che esatto. Magari. Marco, c'hai azioni. Cioè. Ah, perché tu sei un Nintendaro? Sei un fanboy? Non lo sapevo. Grazie a Nintendo. A Nintendo non c'erano i videogiochi, che sei tu, che è come uno è quando è ateo. Sì, ateo, che cazzo gli devo per dire, no? Che a Nintendo è quello che briciole sta bene. Comunque. È quello, cioè senza Nintendo non c'è ancora con Bushnell. Non lo so, comunque Nintendo attualmente fa caccare. Deve continuare a dire, sì, dai, bravo, esatto. C'è poco da fare, mi dispiace, io sono... La mia prima console è stata un Nintendo, quindi non so che dirti. Ho preso lui, tutto quello che vuoi, ma è inutile, ormai... Ma di Nintendo ci ho avuto solo gli schiacciapensieri a casa. No, io no, però a maggior ragione mi piange il cuore, ma non puoi andare avanti facendo Mario e Luigi. Esatto, ci dice che Andy Mind ci ha detto, vi ricordate anche di Legacy of Kain? Che era pure abbastanza... Non era proprio un gioco di paura, non è un gioco di paura. Oddio, però c'era quella, l'atmosfera dark. Comunque. Blood Omen. Blood Omen è Soul River anche. Uh-huh. Soul River, certo. Bravissimo, The Mafia. Giochi Nintendo, chiaramente. Bravissimo The Mafia Nikoku che dice, beh, ma in realtà il gioco è caruccio proprio per il mezzo, perché su PS3 sarebbe stato pessimo, con il gamepad assume un'altra dimensione. Sì. Conferma con così. Questo me ne vado a vomitare. La gioia te ne vai gioioso e soddisfatto, esatto, verso l'utente chiaramente. Allora, esatto. Poi io passerei a Cesare in direttissima, anzi, come i processi a Berlusconi. Passerei quindi all'altro gioco votato, che è stato The Cat Lady. Mm-hmm. The Cat Lady è un gioco che non conosce nessuno, tranne Cesare e credo il suo amico Simone. No, tranne Cesare e Roberto Bertoni. Che no, Cesare, l'amico di Cesare Simone. Non la conosce neanche Roberto, gliel'ha passata con un gli ha passato direttamente il codice prova e via. No, e poi Simone cognome, che non essendo un gioco mainstream l'ha giocato perché è un gioco indie molto esatto. Indie. No, quindi io passerei la parola totalmente a Cesare, poi anche lui Simone è cognome. Shelter, esatto. Allora. Cesare, narraci. Vi narrerò di Cat Lady, quindi allora ci sarebbero da dire tantissime cose di questo gioco. Prima di tutto direi che piattaforma in primis, piattaforma purtroppo solo PC. Ok, no Mac? Credo di no, non mi sono informato, però credo di no. Vabbè, comunque no console. No, console sicuro no. E, diciamo che a livello di controlli è molto semplice, no, il gioco è ridotto all'osso, si preme, se non sbaglio, solo la barra spaziatrice per interagire con gli oggetti e le freccettine direzionali per muoversi nello spazio, anzi neanche nello spazio, è bidimensionale addirittura, quindi. È un gioco, è l'avventura grafica che avrebbero fatto gli egiziani. Esattamente. E in effetti anche le animazioni sono molto egiziane nel loro essere scattose. E, si vede che è fatto con pochi mezzi, con pochi soldi, però con tante idee, perché si vede prima di tutto l'autorialità è chiara, cioè si vede benissimo. Sei un pirla, Pizzi. Però si vede molto bene l'impronta di un unico autore. Cioè, se questo gioco probabilmente avessero provato a farlo, se con questa identica trama l'avessero fatto con più soldi, probabilmente sarebbe venuto peggio. Perché nel suo narrare una storia ricorda quasi una narrazione da libro. Ok, chiedono di non spoilerare troppo in chat. No, dico per il futuro. Cioè, un accenno così alla trama. Alla fine muore comunque. Comunque muore. Sì, ma i gatti poi. È preparato su una cosa. Sì, esatto, fate continuare Cesare. Ha ragione Cesare, che mi ha detto pure che sono pirla. Ecco. No, è giusto. la relazione tra Dietrologia Videoludica e Cesare Giraldi è conclusa questa notte. Prendiamo l'amico suo, che insomma a me due giochi sapeva. Va bene, allora Cesare, continua. Scusa, scusa Simone Pizzi. Ecco. Vabbè, stavo dicendo che l'incipit è abbastanza, diciamo, colpisce molto, perché la Gattara, appunto, che sarebbe la protagonista, subito, sempre uno spoiler, ma non lo è perché è la cosa che avviene subito, si uccide, perché in pratica soffre di depressione. E tutto il gioco è sospeso tra il sogno e la realtà, non si riesce mai a capire se quello che succede è reale o meno. La cosa interessante è che anche giocandolo e discutendo con altri probabilmente non si arriverà a una conclusione univoca, perché non si riesce veramente a capire, a distinguere cosa avviene e cosa no, perché i fatti, il mondo è sempre mediato dalla depressione della protagonista. Quindi cosa si può dire di altro? La longevità è abbastanza buona. Questo è per farvi capire quanto ci interessa a noi di sto gioco. Che vergogna! Siete delle bestie immonde, non so come altro definire. Ma bello è che Simone, tu puoi smettere quando vuoi di giocare. Io smettere quando vuoi. Ma io l'ho acceso solo per disturbarlo, in realtà. Ah sì, giustamente perché ti ho detto che sei un pirla. Esatto, sembra di indicare, quindi. Si comporta come tale, quindi. Mi sembra giusto. Comunque, Il gioco merita decisamente di essere giocato, perché è un esperimento particolare. La trama è molto, molto cupa, molto matura, direi. Per essere un videogioco è decisamente degna di nota. E esistono addirittura dei finali multipli, dove tra l'altro io volevo fare una determinata scelta che non dirò ovviamente, e per sbaglio ho fatto l'esatto opposta, la scelta esattamente opposta, perché ho fatto una pirlata e quindi mi sono ritrovato in una situazione spiacevole alla fine. Quindi può, diciamo, finire che bene, può finire male, questo può essere prima come può essere vero. Sta mano. No vabbè, diciamo che il dialogo finale non è fatto così bene da poter capire qual è la scelta giusta da fare. Di solito tendenzialmente si sceglierà una cosa e si otterrà la cosa opposta. È una cosa un po' strana il dialogo finale, bisogna giocarlo per capire questa cosa. E quindi la protagonista è appunto questa donna depressa, e per un... No, dico la Gattara depressa, no, dico, però anche l'ambientazione, lo stile grafico, magari, perché alla fine sto gioco è così particolarmente angosciante o addirittura, diciamo, può far paura? Beh, diciamo che è molto cupo perché è appunto bianco e nero, quasi la totalità del gioco è in bianco e nero, e tendenzialmente le uniche macchie di colore sono macchie di sangue, quindi... potete capire il motivo per cui è così angosciante. Molto bello, insomma. Sì, esatto. Giocato di notte con le cuffie, ecco, questo è un gioco che spaventa, pensa a qualunque età. Perché... quindi se sei un po' triste lo consigli, perché è un po' triste e vuole distrarsi. Sì, esatto. È una cosa che fa per Cesare, ma fa più o meno paura di Amnesia del primo? Secondo me fa più paura. Ah. secondo me fa più paura, perché l'immedesimazione in questo gioco qua è, nonostante non sia in prima persona, è veramente veramente notevole, ed è una cosa fondamentale secondo me per essere spaventati da una qualsiasi esperienza videoludica. Nonostante che non c'ha il fotorealismo, la grafica dei giochi AAA che non piacciono a Simone. Esattamente. Questo tipo di... Il tuo amico lì che ne pensa? L'amico qui non l'ha giocato, sta a fare presenza in questo momento. Lui ha giocato Amnesia, però. Ah, ecco. Ah, beh. Si può parlare di Amnesia, scusa. Sì, dai, sono collegato in qualche maniera? No, in primis. Fanno entrambi paura. No, l'unica cosa è se Marco e Simone vogliono di qualcosa su Agattara. Esatto. No, Agattara non ci ha giocato. Io non ho avuto, esatto. Non ho avuto modo. Tu sei il Gattaro. Davvero. Tra l'altro. Allora, Simone 3, Amnesia, cosa ci dici? Amnesia, un bel gioco veramente di paura. Ambientato in un castello, nelle segrete di un castello. Ovviamente tetro, buio, pieno di misteri. E la particolarità del gioco è che l'unica arma, vogliamo chiamarla così, è una lanterna con cui dobbiamo illuminare queste ambientazioni e sfuggire da dei mostri che sono presenti in questi comunicoli sotterranei. E la cosa veramente che fa più paura è l'aspetto psicologico del personaggio, perché ti meriti peggio insulti, veramente. Ma potreste stare fermi per favore, ecco qua. Ma almeno toglietemi, ecco qua, bravi. Scusa Simone, continua pure, Simone 3. Sì, l'aspetto più pauroso è un po' la caratterizzazione psicologica del personaggio, perché possiamo decidere se utilizzare o meno questa lanterna che consumerà dell'olio, quindi avrà un'autonomia limitata. E ovviamente avendo la luce potremo vedere dove andremo, ma finiremo l'olio. Viceversa, spegnendola al buio, il nostro personaggio inizierà a impazzire, ad avere sempre paura, a vedere allucinazioni, insomma a vedere mostri dove in realtà non ci sono, a percepire gli spazi in modo diverso. Quindi sta anche un pizzico un po' di strategia in questo gioco. Ecco, in un gioco come questo, per esempio, il grande problema, parlando con varie persone, è di tipo tipologico, cioè nel senso... Come lo possiamo definire Amnesia? Un'avventura grafica? Un survival? Un survival? No, perché poi in realtà non si muore, se non mi sbaglio. Infatti. Poi ti Simone, parlavo con te. Un survival direi di no, perché comunque non si spara, non c'è una componente, non c'è neanche la barra della salute, mi sembra. Nel senso che con un colpo mi sembra che uccidono, però... Direi un'avventura grafica più che un survival horror. Un'avventura grafica horror? Sì. Stanno, eh? Ok. Sì, no, per carità. Anche adesso su Cognition, che non è proprio horror, ma insomma. Cognition! Cognition! È horror, Cognition. Cognition. È horror perché fa schifo il gioco. No, allora. Un gioco orrido, no, horror. Esatto, sì. Annaggia. No, vabbè, se per questo, come anche altre avventure horror, ricordiamo l'italianissima Anna, per esempio. Se giocato. Comunque, vabbè. Non è stata votata. Dei momenti particolari. È stato votato perché non conosce quasi nessuno. Però non è... Non è male. No, non è, io non ho finito, però per quello che ho visto, secondo me, forse perché sono italiani, è uno che conosco, amico, non lo so, insomma, però a me non mi è sembrato così accio. No, non era male, non era male. No, infatti. Cioè, e c'è un paio di momenti che ho detto, oh. Secondo me è un par di sarti di fa. Sì. Ma comunque... Proprio sì. Poco dopo... E poi il gioco tutto basato sull'ambientazione, cioè, perché poi non è che c'è sta cosa, questi enigmi... improponibili o cose del genere. Uno era proprio per me impossibile proprio da pensare, però vabbè, forse sono io che sono ritardato. No, ognuno è mica che... Tanto noi mangiamo. Sì, no, voi mangiate pure. Io passo... Fai come se fossi a casa di Peppe. Detto ciò, io passerei all'altro gioco. Un gioco, un bel gioco secondo me, se è lo stesso che penso io. Intanto nella chat che dicono? Nella chat dicono pizzi puzza. No, ci chiediamo di spoilerare dei cattleri, ma poi alla fine, insomma, se la cattara muore e i gatti se la mangiano, non è colpa nostra. Cognition, comunque, Cristiano Caliendo, autore di Shadow of the Vatican, uno degli autori, ci fa notare che si dice Cognition. Tutto il prossimo, esatto. Non si dice Cognition perché, come io e Cristiano Caliendo, siamo alla fine di Calavera Caffè con Cognition a tutti quanti. Esatto. Detto ciò, passerei appunto al prossimo gioco, grande gioco, se è quello che penso io, è Shadow of the Comet, ovvero gioco basato su sul richiamo di Cthulhu, come altri giochi. Ma stiamo parlando del vecchio punta e clicca, della vecchia avventura grafica, sì? Ok. Infatti va a rientrare Cristiano a sto punto. No, io non lo voglio far entrare invece. Così. Mi impongo inutilmente. Perché ti fa paura? Perché mi fa paura? Perché è una persona che io stimo, la stimo così tanto che non la voglio più sentire. Allora, detto ciò, no, non è vero. Povero Cristiano, no, saluto a Cristiano che non salutiamo mai. Faccio uscire il nuovo Shadow of the Comet, il nuovo Shadow of the Vatican. Ecco. Detto ciò, quindi voglio sapere come che fine fa Mario il barista. Vabbè, viene picchiato dal Papa e muore. Tanto okay. Mario riapre prima o poi. Esatto. Tanto. Quindi, punto e clicca basato sui miti di Cthulhu, precisamente su Innsmouth, ovvero luogo, villaggio dove ci sono i tizi mezzo pesce e mezzo uomini. Uno stile particolare perché comandava il personaggio non con con le frecce, mi pare, ma muovendolo direttamente proprio sugli oggetti, se non erro, ma forse mi sto sbagliando. Boh, adesso non me lo ricordo, ci ho giocato 3.000 milioni di anni fa. Sì, passava un bel po' di tempo. Comunque, grafica stupenda, secondo me. Grafica davvero stupenda, ottima storia, appunto. Poi, per chi è appassionato di Lovecraft, tipo il sottoscritto, è da giocare assolutamente. E che dire, sì, il gioco, essendo lovecraftiano, fa una discreta paura perché tutto sembra tranquillo, il paesino, villaggio di pescatori, eccetera, eccetera. In realtà poi più si va avanti nel gioco, più si scopre che non è tutto come sembra, ci sono le persone messe male, insomma, sembra più un cotolengo piuttosto che... Le persone messe male. È poco praticamente. Sì, esatto, l'ho detto in Pix, però senza Cesare che parla al contrario, mettiamola così. Okay. Chi si è consigliato che l'abbiamo citato, Cristiano Caliendo ne ha parlato all'ultimo Calavera Caffè, dicendoci tra l'altro una cosa importante, che il protagonista aveva un handicap, che era quello che aveva problemi cardiaci e quindi ogni tanto gli poteva prendere la schiattarella. Pensavo la zoppia. Che in un gioco dell'orrore o di paura, diciamo, uno con l'infarto facile, diciamo che era una caratteristica particolare, insomma. Anche lì per Cesare se lo ricorderà benissimo sto gioco, ovviamente. Stavo per intervenire. Sì, no, anzi, lasciamolo parlare a lungo perché allora, tanto... Vai, ti lasciamo la linea dal Cibali. Potrei parlare per ore e ore, guarda. Però ha troppa paura per farlo. Anzi, esatto. Scusa, ma allora, visto che l'indiano viene citato, qual è questa scena dell'indiano di cui Cristiano Caliendo ha tanta paura? Quando l'ammazza. Vabbè, ti spiega bene, ecco. Giocatelo, cioè nel senso. Giocatelo, a un certo punto c'è l'indiano che vi ammazza. Detto così. Questa faccia è terribile perché è proprio una faccia del male, capito? Che insomma, vabbè, se chi se lo ricorda l'ha giocato 25 anni fa, è chiaro che lì per lì te paga paura. È una figura un po' cristologica. Sì, anche secondo me è cristologico l'indiano. Silenzio, sì, stavo pensando alla cristologia in questo momento. Anche io stavo pensando a tutte cose cristologiche. Cristologico, quello col cuore fallato, insomma. Col cuore fallato, senza scontrino. Poi, allora, Shadow of the Comet, quindi giocatelo, perché comunque secondo me si è conservato bene, un po' lungo, un po' lento in certe cose, però merita, ecco, un gioco che merita, nonostante sia vecchio, ma se volete parlare di giochi vecchi andate sul Retrocast. Comunque, detto ciò, passerei a un gioco che ha riscosso, come dire, pensieri... E parole. E parole, esatto. E opinioni contrastanti. Molto contrastanti. Il gioco in questione è... Ricordiamo che è uscito oggi, esatto, per PC. Ah sì, giusto. Già lo stanno bestemmiando tipo milioni di persone. Ma quella era per il problema della risoluzione a 720p. La risoluzione, ma non solo, cioè, che ci ha flagellato da un sacco di pure. Ma ha chiesto su Eri 65, ha chiesto umilmente perdono con una katana in mano. No, mi sbudello, mi sbudello. Fino a che ce l'ha in mano la katana pure bene. Potrebbe chiedere perdono per il gioco in sé, comunque. Esatto, è quello che sostengo anch'io, ma vabbè, se lo dico poi si cazzano. No, veramente non l'hai capito quel gioco. L'avete capito, è Deadly Premonition. Deadly Premonition è un gioco che sembra uscito da, appunto, come me lo descrisse un ascoltatore di Retrocast, sì, sembra un gioco brutto per Mega Drive o Super Nintendo. No, con una grafica dalle texture sembra, insomma, tipo PlayStation 1. Sì, con la grafica PlayStation 1. Esatto. Sì, ma perché quel gioco originariamente era previsto per PlayStation 1, quando all'epoca si chiamava Rainy Woods, se mi ricordo bene. Ci hanno messo poco. Sì, ecco, sì, infatti. Probabilmente... Oh, vabbè, un po' come tutti i giochi che dopo una lunga gestazione... escono, insomma, la merda. Escono male, esatto. Stile... comunque ricordiamo che sul nostro canale YouTube ci sta un bel video di c'è un commentario, sì, sì, una mezz'oretta che vi farà capire. Si chiama Deadly Premonition gameplay, ecco, allora, gameplay ovviamente di Giuseppe, il commento è di tutti, Marco, io e Giuseppe, chiaramente, e per ricordare, per dare l'importanza dal punto di vista anche registico di questo gioco, per capire tutto l'immaginario estetico che c'ha il giapponese dentro di loro, è la ragazza morta impiccata sul squartata sull'albero, dopo questo serpente gli passa a mezzo e zizze, cioè. Beh, è un grande classico questo. Simone, c'è Flow My Thirst Police che dice: Pizzi, no violenza sui bambini. Spiegami per favore che violenza stai facendo. Suppongo verso Cesare e Simone, suppongo, però sì, sarebbe rispettoso verso Cesare e Simone. Io a Cesare voglio bene, non è che... Pure a Simone un po', dai. No, io forse voglio più bene a Simone che a Cesare, guarda. Non lo so, sono indeciso. Cesare, è il tuo nome di battesimo? Sì, sì, assolutamente. A parte che il suo nome è d'arte. Hai scusa, sbagliato Anna Maria. Non è perché tu pensi che il cognome sia il mio cognome. No, secondo me sì, ormai per me il tuo cognome. Ah, okay. L'anagrafe secondo me è mai no, tra l'altro cercando di nelle ricerche, per metterti nelle ricerche di logica videoludica, c'è su Google Plus una marea. C'è una marea di Simone cognome. Cioè, o siete tutti idioti. Direi di sì. Sono sempre io. È sempre lui che ha tanti account per votare. Io non mi trovo. Io l'ho pensato che eri sempre te, però preferivo non pensare che non fosse vero. No, invece sono sempre io che mi faccio degli account. Voi avete pure giocato a Deadly Premonition? Deadly. Sì, sì, io... su 360 e mi ha fatto male. Quanto male? Abbastanza, pensavo peggio all'inizio, poi in effetti si vede che è un gioco che è stato creato per... cioè che se fosse uscito per la PlayStation 1 forse sarebbe anche stato recepito in un'altra maniera. Ma, non ti ha inquietato molto con questi qua che questi specie di zombie tutti accartocciati che cercano in bocca? I want to die. Esatto. Spoilerare che io me lo devo giocare nel PC, non me lo spoilerare. No, mi viene poi quando si avvicinano ti mettono la mano, il braccio dentro la bocca. Un po' meglio, no, ti metto la lingua in bocca. Diventa, sì, per dimostrarti che è vero. Non lo dite che York quando fa incidente con la macchina in realtà è morto. Sì. No. Che no. No, allora è un gioco strano e delirante che che secondo me merita di essere giocato, ma il cui parere mi ha spoilerato. Ma che Simone, ma tu hai dei tempi di quando muore la bambina ma mi conosci da 2 anni ancora, sai, cioè dei tempi della bambina di The Walking Dead che muore, che continua a credere che lui stia spoilerando cose. Adesso mi faccio come là, adesso chiudo tutto e me ne vado. Esatto, te ne vado. Esatto, a me lo vuoi stare bene. Stefano, non ti ha inquietato comunque? Cioè, no, mi sono fatto vomitare, insomma, per il gameplay e basta. No, è il problema che ti prende, cioè se non ti aggancia. Perché comunque la storia è interessante, anche perché ha molti rimandi, come sempre, a Twin Peaks. Sì, ma la storia è interessante, ma sarebbe stata... allora, Clock Tower per PlayStation 1, lo giochi adesso, dice vabbè dai. Scusa, ha pure degli elementi in comune con Clock Tower, perché se sei quantomeno arrivato a vedere la prima fase in cui incontri bambino. Il tizio quello in impermeabile con l'ascia, no? con gli occhi rossi, poi devi cominciare pure a nascondere. Esatto, sì, esatto. Devi cominciare pure a scappare pure in quel caso, se ti ricordi, a nasconderti. No, a quello che okay. Mantenere il respiro, te lo ricordi? No, ok, quello però per 360 non lo so, non boh. C'era sta parte, c'era No, che non ci fosse. Quando cioè... tu apri, accendi la 360 e fa partire sul gioco, sì. E vedi il fiume che è blu. Sì. No, boh, nel senso, io non sono riuscito, nonostante il mio amore per le cose giapponesi, per tutte quelle cose orride che tirano fuori loro, che io amo dal mio profondo, nonostante tutto l'ho trovato troppo lento, troppo macchinoso per essere apprezzato, anche mettendomi in quell'ottica lì, diciamo. E questo per quanto mi riguarda, poi appunto... Come? Con l'alcol. Con l'alcol, sì, ma non bruciava abbastanza il CD. Droga. Quindi non. Una canna. No, il CD non riesce a fumare. Ho provato ad aspirare a buttare il fumo dentro la Xbox, ma il gioco non migliorava, purtroppo. Forse l'avrei dovuto aspirare io, però. Sì, probabilmente sì. Ma Simone... sai che io sono contro ogni droga, quindi. Quindi Simone è quello non accanto a me. Simone cognome o Simone 3? Simone cognome, che è come detta quello da solo, Simone cognome. Simone, allora, il signore cognome, okay. Ci ha giocato quest'estate per 360, scaricato in download. Io l'ho trovato affascinante, ma io sapevo più o meno a che andavo incontro, perché mi ricordo che Deadly Premonition fu uno dei giochi che causò uno dei più grandi shitstorm su multiplayer.it, perché loro lo commentarono in maniera comica durante la super diretta natalizia, e successe il panico, perché la gente ha detto: oh, dovete essere seri con questo gioco. Anche il gioco c'ha dei tratti anche comici, tra l'altro. Sì, però in quel momento era appena uscito e ancora non c'era troppo. Siamo pieni dei fanboy e bimbi minchia, e purtroppo non ti azzardare a dire. No, è come quando diceva Jalapas Band, dice: perché non fate più mai dire gol? È perché in Italia non si può scherzare sulla politica e sul calcio, non si può scherzare, non si può più scherzare. E la stessa cosa sui videogiochi, perché non è poi. No, io mi ricordo il voto che gli aveva dato, tipo Destructoid, gli ha dato 9 per scherzare. Quello è Sterling, che... quello geniale. E loro l'hanno messo in copertina il gioco, sì, da 9. Però un suo perché ce l'ha questo? Perché allora, se graficamente può anche non funzionare, il resto del gioco è talmente particolare. Secondo poi, io ho giocato 6 ore, 7 ore, una cosa del genere. Però secondo me è talmente particolare che può regalare emozioni. Però devi pure, come tanti giochi ultimamente, devi pure essere un po' predisposto a lasciarti trasportare, ecco, insomma. Vabbè, come ha detto pure Mario Morandi, che salutiamo. Sì, grande Mario. Proprio nel commento nel video che abbiamo fatto con Giuseppe e Marco, questo gioco si basa totalmente sul fattore drama. Che anzi, lui ha spiegato il fatto che questo gioco in teoria doveva essere un'avventura grafica alla giapponese. Forse sarebbe stato meglio come avventura grafica. La parte action l'hanno inserita semplicemente perché per renderlo più appetibile per il mercato occidentale. Diciamo anche che pure qua tra gli ascoltatori, Alessandro Bonelli, che dice pure che lo sta pure giocando su 360, gli sta piacendo molto. Infatti, per lui, appunto, si riconosce pure lui che è un titolo pieno di problemi, però lo trova veramente. No, anche la meccanica punto... da PlayStation 1, No, ma il punto è quello: cioè, io sono partito, ho detto: giochiamo a questo gioco, è pieno di problemi. La grafica è quello che è un gioco concepito come gioco vecchio. Quindi ho detto: lo so, sono partito con delle. Come dire? Sei partito in modalità retro. Sì, esatto. Cioè, lo so, ma non fino a sto punto. Con delle basi un po' negative. Quindi ho detto: vabbè, adesso so cosa aspettarmi. Poi ci ho giocato ed era peggio di come mi aspetto. Cioè, loro me l'hanno descritto male, ma io l'ho trovato peggio. Poi invece c'è gente che lo idolatra e gente che lo detesta. Io mi metto nel mezzo. Io posso comprendere il giudizio che ha espresso anche Giuseppe pure con noi, trovando gli aspetti positivi su questo gioco e il perché a lui gli è piaciuto. Ma da qui a diventare un gioco cult o addirittura essere idolatrato, secondo me questa pure è una di quelle fisse, capito, da ma è cult brutto valori, capito? Ma no, perché poi io ho sentito veramente la gente dice: no, non si tocca. Perché cioè, non si tocca? Niente, niente non si tocca, prima di tutto, perché nessuno essere, a me non mi sta bene, deve essere criticato tutto. Però dico, cioè, al di là di questo, cioè, il gioco c'ha Boh, c'è qualche problema. Per chi non lo capisce, per chi non riesce ad avere l'appeal con il gioco, che posso comprendere che ci sia, però per chi non ci riesce purtroppo rimane nell'esteriorità, quindi tutta quella parte che comunque è estremamente negativa. Poi se veramente era un'avventura grafica e hanno messo la parte shooter per gli occidentali, hanno fatto una gran cazzata, cioè, detto fra noi. Però poi il gioco anche tecnicamente c'ha dei problemi, cioè nel senso non è soltanto pure le cutscene, neanche un'espressione facciale, neanche le basi del mestiere, come diceva l'amico Prete. Ma quello ci può anche stare se l'hai fatto con quello stile, però... Ma quello non è stile, dai, quello è non ci sono i soldi, è diverso. Ok. Io dico, non ci sono i soldi, quindi te lo faccio a culo, e io ti dico, vabbè, lo capisco, cioè, mi metto nei tuoi panni, io non ho i soldi per fare un videogioco, però magari lo voglio fare lo stesso, cerco di fare quello che riesco a fare. Però, non lo so, avrebbero dovuto modificarlo in maniera tale che divenisse giocabile dagli esseri umani, perché secondo me non è giocabile, cioè diventa, mi ha rotto le palle letteralmente, capito? Soprattutto con le varie iterazioni che sono più o meno... Madonna buona, sì. Che la versione PS3 più o meno. Ma sentiamo Cesare. Cesare Simone e Daitan 3. E anche Simone 3. Sì. No, Daitan 3 lo chiameremo. Ce l'ha cognome Simone, giusto per. Sì, si chiama cognome anche lui. No, non può averlo cognome perché altrimenti sarebbe un caso di omonimia. E cognome anche lui. No, lui si chiama Simone 3 di cognome. Simone. Simone come Mario Mario e Luigi Mario. Lui è Simone cognome 3. Che c'hai i problemi di finanza o cosa c'è? Non è che c'è problema. Tanto si è già segnalato, tranquillo. Dicevamo, no, quindi Simone e Daitan 3. Simone, Cesare e Daitan 3, scusate. Cosa sta succedendo? Pronto? Ok. Sì, ci sono. Allora, cioè, se offri di narcolessia lo sappiamo che ti svegli così all'improvviso, e ti senti abbandonato. Però. Oddio, dove sono? Perché non mi parlate? Replaying! Voglio il cappellano, voglio il cappellano. Comunque. Stavamo dicendo, io di questo gioco mi sono molto interessato e informato, perché non sono ancora riuscito a capire se veramente l'hanno fatto così per mancanza di soldi, perché non sono capace a programmare, perché c'avevano voglia di farlo così, non si capisce, cioè in alcune parti, per alcuni aspetti sembra fatto veramente in modo intenzionale, non lo so, per l'ironia, per la comicità di alcune situazioni. Guarda, dopo la versione PC io dubbi non ne ho, cioè proprio più di quello non potevano. Quelli sono gli assets che c'hanno, quello... Non è che ti inventi niente, insomma. Però allora sarebbero veramente ingiustificabili, cioè, perché alcuni hanno giudicato una perla, e quella è la cosa strana, cioè... è stato giudicato in modo proprio diametralmente opposto, o bruttissimo, oppure una cosa incredibile, che c'è uno stile che spacca le mascelle, che veramente non si è mai visto nulla del genere. Cioè, non riesco a capire il punto di vista di quelli che l'hanno valutato così bene, e ci sono. Beh, come, forse è un po' come i quadri sfondati, che per qualcuno sono dei quadri bellissimi, cioè. È arte per quelli. Beh, diciamo che il fatto che si distingua, cioè il perché si distingue, che a noi fa schifo, però in realtà comunque in un modo o nell'altro si distingue dalla massa, no? Perché comunque è un qualcosa di anomalo, di diverso. Ecco, posso anche comprendere, proprio perché c'ha sto sapore veramente retro in un gioco nuovo, che in qualche maniera a qualcuno possa anche piacere. Però oggettivamente a me non è riuscito ad affascinarmi, e quindi automaticamente per me quello che di buono c'è all'interno del gioco sicuramente non riesco ad agganciarlo. Simone 3. Ma anche io condivido un po' l'idea, insomma, che generalmente non ci ho trovato poco di buono, e anche quel poco di buono che ho trovato, insomma, era troppo poco per poter giustificare questo gioco da tutti i punti di vista, soprattutto dal punto di vista grafico e tecnico. Ok, il discorso, Giuseppe, è che a noi giovani sto gioco non ci piace, a voi vecchi sto gioco. sì, il concetto è quello, cioè se riuscissi a capire veramente il punto di vista di quelli che l'hanno valutato così bene, mi farebbe piacere, perché faccio veramente fatica a trovarne dei pregi, solo forse la comicità e, lo so, da il fatto che infatti è, io lo considero un gioco trash. Esatto. È un gioco trash, quindi prendilo, ecco, per un gioco trash. È come un film del Monnezza. Comunque, detto ciò, senso potrebbe, no, ma io ci ho provato anche in quel senso, e neanche in quel senso, cioè, guardo meglio Lino Banfi e Eder Monnezza, non riesco. E soprattutto Edwidge Fennec. Soprattutto lì, ma questa è un'altra questione. Poi troviamo nella top 4, di nuovo Alone in the Dark, il primo, sì, quindi ne abbiamo già parlato. Ne abbiamo parlato, sì. Però lo cito per dovere di cronaca, tra i primi quattro. Sì. Poi saltiamo direttamente, passiamo a Dead Space. Qui viene citato l'uno, ma uno. Io ci metto tutti Dead Space. No. Gli altri sono molto meno. Poi perché ci stanno i maccheroni spaziali. Per riaggiustare la cucina, qua riesco a cucinare la pagliata. Perché questi non hanno capito niente. Non è un problema di scappare, Clark. Qui il problema è più grande, Clark. E quindi la pagliata. No, ecco, allora, un gioco che a me terrorizza. Ogni Dead Space io ci gioco. Sul momento non mi fa paura. Smetto di giocarci e inizio a guardarmi attorno. Sì, esatto, più o meno. Poi, no, questa cosa qua. Con quel problema di chi videogioca troppo è che ci sono seri problemi. Cioè. Sì. Ma può essere anche quello. Il punto è che, cioè, ci posso giocare 5 minuti, poi inizio a guardarmi attorno, chiudo le porte, accendo le luci, non lo so. A me, per esempio, rimane molto emblematica la scena proprio all'inizio del primo Dead Space, quando ancora non hai alcuna arma, no? Ti mandano a riparare quel terminale in una stanzetta, mentre invece gli altri sono nell'anticamera, no? Se ne va la luce e poi arriva i negromorfi e tu devi scappare. I negromorfi. Ma è come sei il solito razzista. È proprio una cosa, i negromorfi. E tu devi scappare fino a raggiungere l'ascensore, se ti ricordi. Certo, non c'ho la lira. E tu non volevi fazzoletti perché eri pieno. Sarà il titolo di questa puntata. I negromorfi. Io non c'ho la lira. Infatti, su Dead Space tu non c'hai l'arma che li segui. E c'hai questa cosa che dice: non c'ho la lira. Esattamente. No. Comunque, stiamo dando lustro alla puntata. Sì, no, sì, non so voi, ma secondo me la parte più terrorizzante è quella dove non ne vedi uno di negromorfo, appunto, ovvero nel secondo, dove giochi per mezz'ora forse, uh-huh, è solo musica e ambienti della vecchia astronave chiusi. No. Esatto. La vecchia Chicago. No, della vecchia, come Ishimura, mi pare. Ishimura. Sì, ok. La vecchia Ishimura, dove non ci sono necromorfi, però tu ti aspetti che da un momento all'altro arrivino e non arrivano mai, e dici adesso arriva niente. E rimani per c'è una domanda. Sì, scusami, dimmi. Un secondo, poi dopo continui. Scusa, ma va bene. Questo flash. No, io ci sono. Chi se lo ricorda il primo Unreal? Io. Cacchio. È vero. Allora, il primo Unreal che scagazza da paura, il primo livello scagazza proprio, no? Cioè, nel senso, considera che è il primo gioco che usava pure un certo tipo di sound design non come si chiamava? Sound Blaster. Come si chiamava l'astronave del primo Unreal? No, il nome dell'astronave te lo dice Wikipedia, te lo dice. Sì. Sì, infatti. Un attimo un dubbio. No, vabbè, comunque, nel mentre che controlliamo, appunto, a me quella scena lì ha terrorizzato forse più di altre parti del gioco. Comunque si chiama Vortex Rikers, l'astronave. Sì. Bel nome. Vortex Rikers. Bel nome di merda. Vabbè, ragazzi, mica cosa vi devo dire? Oh. No, l'ambasciatore non porta bene. No, perché io sono il capitano nazionale, come si chiama? Vortex. Vortex. Comunque, bello. Non so voi se vi ha scagazzato The Space oppure vai avanti, non me ne frega niente, no, sparo in necromorfi. A me quello che mi ha messo appunto più terrore è stato il primo. Dal secondo in poi sei già troppo. Secondo, troppo sì, spinto alla razza. Sei tipo il Chuck Norris degli ingegneri, fondamentalmente. Vabbè, dopo il primo lui è più schillato. Sì, è più schillato, quindi chiaramente spacca di più schillace. Sì, esatto. Devo dire che quello che ricordo con maggior. Aspetta, il primo fa paura fino a quando? Fino a che a un certo punto non si spezza questa atmosfera, esatto. e arriva un negrone morto e dice no, perché bravo, finché c'è come sempre Clark, guarda, il caro dottor, sì. Toccaretta Cargasse. No, devo invece riconoscere però che nel secondo la cosa che mi ha più disturbato sono le varie sequenze in cui Isaac muore, no, trucidato, vomitato. Madonna, se... E là erano ancora più disturbati. I bei mostri che ti vomitano in bocca e diventi uno di loro, sì. Ma a me anche solo, quella di quel negro morto che è tipo la testa con la testa con i tentacoli, no? Che a un certo punto si sostituisce alla tua testa e sì, che bloccarsi del tuo corpo, no? Ma io speravo che il gioco continuasse con te nei panni del negro morto, sarebbe stato bellissimo. Comunque, che sta succedendo? Comunque, intanto vomito mentre parlo. Sì, no, vomito un po'. Comunque, io. Scusate, no, vabbè, la morte lo fa bene. Allora, esatto. Volevo anche leggere nel frattempo qualcosa della chat pure. Sì, allora, sì. C'è RPG Zephyr che dice: Io vorrei proporre come menzione di Disonore Amy, non so se qualcuno di voi l'ha giocato. Sì, bella esatto, come gioco di paura, dato che ti spaventa il solo pensare che esista. Esatto, sì. Ma è un gioco anche quello fatto male. Che poi era un gioco d'orrore con tanto di bambina che dovevi continuamente portarti appresso. Che... E poi muore. No, portata via dagli alieni. E poi l'altro che è... The Mafia Nikoku, Space Extraction. Esatto, Extraction che è uscita io. Un aneddoto a proposito di Space Extraction. Aspetta, che ricorda anche pure come altro gioco sempre molto trash, se vi ricordate l'ultimo House of the Dead, Overkill, non so. Madonna, sì, finito in una notte comunque, mangiando biscotti che non vi sto a dire cosa avessero dentro. immaginate che partitore. Vabbè, dai, Stefano, grano saraceno, immagino. Esatto, quello della pastiera. Esatto. Comunque, allora, scusate, Dead Space, vi dico due cose. Uno, che io non so perché, era un momento, come dicevo Marco, è stato un momento diverso, dove ho preso Dead Space e l'ho giocato con cuffie, serrande chiuse, volume alzato. Al bagno, esatto. E la cosa che mi infastidisce di più, a parte i rumori che mentre cammini su nel cesso, poi esatto, chissà che rumori è anche in 4D proprio, esatto, e ecco, che passavano dalle fottute pareti, diciamo. E quando becchi quello che dà le capocciate lì, è stato 10 minuti, adesso arriva, ecco, perché da lontano non si vede, quindi invece adesso sta per arrivare, eccomi, io sono pronto, sparavi due botte, due cose, sparavi, cercavi di... niente, alla fine arrivi e ti rendi conto che è quello, non so se ve lo ricordate, che tipo la faccia non ce l'ha più, la sta dando a capocciate sul muro, quindi già là ho detto ok, forse lo ricomincio tra un po', e ho chiuso là. Aggiungo che Bruno voleva farmi fare bella figura, ma gli do la paternità di questa cosa a lui, dice in realtà Dead Space è la versione 3D dell'antico Project Firestart, che forse Stefano si dovrebbe ricordare a questo punto. Ma neanche per il cazzo. No, boh, aspetta. No, fammi mente locale. Vabbè, ma io sto mente locale. Google. E comunque ho giocato anche Overkill, finito. Invece Overkill è figo. Scusate. Cesare che ci ha dati su Dead Space. Space, dai, su Dead Space. Su Dead Space mi ha inquietato meno di quello che pensavo di giocare, cioè sì, fa paura, è claustrofobico, corridoi stretti eccetera, poi ti senti lo sfigato di turno che deve affrontare l'invasione dell'universo, l'invasione di questa astronave dei negromorfi, però secondo me poteva essere sfruttato in modo un po' diverso, perché ci sono alcuni difetti del gioco che me l'hanno un pochino fatto cadere. Ad esempio il fatto che dicesse, non lo so, aveva un dato punto che ti diceva guarda, devi tornare indietro per sistemare questo pezzo. Primo soffriva molto di backtracking, effettivamente. Sì, esattamente. Cosa che hanno eliminato negli altri due, abbastanza lineare, non ha mai... la necessità di rivisitare location già viste fondamentalmente. Peccato che poi negli altri due diventi veramente Chuck Norris degli ingegneri, cioè diventi, ti senti super figo, il salvatore della situazione. Il fatto che comunque facevi in continuazione backtracking nel primo, non so se io ci vedevo un rimando tipo al una citazione fondamentalmente del primo Resident Evil, no? Con la struttura delle stanze per della villa. Esatto, che dovevi tornare più volte per poter risolvere qualche enigma. Ma quello era anche un escamotage, magari per sì. Una mappa non gigantesca, per cui esatto. Il fatto di poter tornare indietro. Sì, sì, la prima Ishimura era piccolina, mm-hmm. Non era grande. E poi il 2 invece ha avuto un'ambientazione un pochino più ariosa, questo fatto l'ha un pochino reso più forse mainstream, perché poi l'hanno costruito in modo più action, con ambienti più grandi, scontri un pochino più coreografici. Peccato che è scomparsa un pochino la vena veramente horror, perché alla fine è diventato più un action, è diventato sì, è diventato un horror. Della siringa nell'occhio, insomma, anzi del lago nell'occhio. Put the needle in the eye. E io, pla! Ops. Ok, la no, riprovo. Put the needle in the eye. Pla! Okay. Sì, è stato difficile. No, ecco, ma allora mi fa paura anche lo splatter a questo punto, non lo so. Cioè, lo splatter fa più schifo che... No, ma schifo non mi ha fatto mai schifo. Era proprio la tensione, l'ansia. Cioè, schifo una grande resistenza. Basta. Visto che hai pronunciato la parola splatter e non era presente in scaletta, ma tu hai giocato all'ultimo remake di Splatterhouse. Esatto, di Splatterhouse. Splatterhouse. No, perché non mi ha proprio. Boh, cioè, non mi ha interessato. Mm-hmm. Non l'ho trovato un gioco degno dei suoi predecessori, diciamo. Il tuo tempo anche. Boh, sì, una specie di Deadly Premonition degli Splatterhouse, forse. Cioè, non è nel suo trash per essere trash, secondo me merita. Però, boh, dipende dai gusti anche lì, eh. Bon. Non lo so. Io volevo dire il mio aneddoto su Dead Space Extraction per Wii, sì. Che io giocavo di notte. Con le scarpe tutte rotte travestito da puttana, viva la Befana, no, comunque, detto ciò, e ti scaldavi, esatto. Salutiamo Paganini. Ciao. Salutiamola anche la Befana a questo punto. No, detto ciò, no, io ci giocavo di notte da solo, cioè era da solo, il mio coinquilino dormiva, coinquilino che purtroppo che saluto, che non è cristiano però. Sì, purtroppo non è più con noi. Che stai... No, che saluto. Sta bene, poveraccio. Morto di notte d'infarto. No, lui dormiva in camera sua, il problema è che lui ha questa... Il problema è che spesso parla di notte, nel sonno. Quindi io giocavo con senza le cuffie, quindi col volume un dice, po' basso. Dice basso, rompe il cazzo, spegni quella cosa. No, col volume basso. Sonno, ti bestemmi nel sonno. A parte che ogni tanto appariva il gatto, il nostro gatto. Ah, no, pensavo il gatto quello... No. Quello quelli stivando. No, il suo gatto. No, quello di... Vabbè, no. Che diciamo mi terrorizzava. Esatto. A un certo punto lui inizia a giocare e sento lui che parla nel sonno e non mi ricordo neanche che cosa che stesse dicendo. E lì ho capito che era il caso di spegnere, perché... cioè era orribile, era un'esperienza, tu sentivi il silenzio del gioco, le musichine eccetera eccetera, un po' di e poi a un momento sentivi una persona che da dentro casa, una casa anche piuttosto grande, sì. Parlava dal nulla, cioè, non è che per caso diceva mio fratello che faceva così, Stefano, non è che per caso diceva rendici uno no, per fortuna no, se avessi detto così sarei messo a piangere, sarei corso fuori mutande, penso. Comunque, quindi niente, devo... anche io c'avevo mio fratello che faceva così a mezzanotte. Sì, no, una volta ha parlato in inglese, mio qui, so, no, quella si chiama possibile. Non ha mai parlato, però. E non conosce l'inglese. No. No, comunque, no, il problema fondamentale è quello, che cioè, sei da solo al buio e uno parla da dentro casa improvvisamente dal nulla, con questa voce che rimbomba poi, con casa, e allora lì capisci che è il caso di smettere, così ho fatto, e ho iniziato a giocare ai Dead Space solo di giorno e con qualcuno in casa, sveglio. Soprattutto sveglio, umano possibilmente, oppure col gatto che però fosse a portata d'occhio, perché il gatto ha la mania di apparire da dietro, ad esempio, non lo so, il poggiaschiena del divano. Come no, salta da dietro. Il gatto è bastardo perché poi prima è silenzioso, non lo senti fino all'ultimo. Sì, sì, sì, a un certo punto il gatto, il gatto sente che tu sei in tensione, ti fa gli agguati. Che simpatico gatto. No, io li adoro con tutto me stesso i gatti, però per giocare ai giochi horror non vanno bene. No, secondo me, cioè, o ti dormono vicino o devono stare chiusi in un'altra stanza. Perfetto, ecco, questa era la medaglia d'argento? Questa no, questa è quella di bronzo. Poi abbiamo al secondo posto abbiamo il famosissimo Resident Evil. È uscita anche la notizia, mi pare, di oggi o di ieri, che Resident Evil 5 è stato il gioco più venduto in assoluto di Capcom. Quindi addirittura è per questo che è in gravi difficoltà finanziarie. Sì. Quindi ha venduto 5 copie, cioè, ma spiegano tante cose. Non è questo splendore il 5, sinceramente. No, anche se è meglio del 4. Però è anche meglio del 6. Si sparava ai negri, scusa. Me ne vado sbattendo la porta. No, allora, nel 5 io ci ho giocato perché sparava ai negri, nel 4 agli spagnoli. E quindi, cioè, c'erano pure gli spagnoli negri, se guardavi bene nel 4. Sì, no, momento, no, il 4 era il mio preferito dal punto di vista razziale. No, ha detto che il 5 è meglio del 4, Pizzi. Cioè, che cazzo, che fai il podcast? Perché fai il podcast? Beh, cioè, voglio dire, almeno tecnicamente era un po' meglio. Cioè, grazie al cazzo, è un'altra console. Valla a spiegare a quelli di Dead Premonition. Non è così scontato come tu pensi che sia. Come no? L'ha detto lui, ma io a spiegare quelli. Io devo dire che però tra il 5 e il 4, il 4 ha avuto quei più momenti da paura, veramente. Come gioco era proprio era di Cristo, dai. Sì, no, a parte il primo, tutti gli altri. Per due, primo, no, il 4 due. Pure, dai, quando la prima volta c'erano quei specie di paesani posseduti. Non forastero, esatto. Che cercavano di entrare in casa, ti ricordi? Io mi domando perché non li fanno mai ambientati a Roma sti cazzo del gioco. Sì, sarebbe fantastico. Madonna. Non faccio nulla. Devi correre a Triburtina. A Triburtina, che è a Triburtina? No, Triburtina però per tre. La Triburtina. Esatto, a Triburina. Tiro fuori la pagliata. Vabbè, allora Resident Evil, Cesare, c'è giocato Resident Evil? Sai cos'è Resident Evil? A quanto Resident Evil? Direi di sì. Ho iniziato dal 4, mi sembra. Sì, dal 4. Hai cominciato male, Beh, ma nemmeno troppo. Il 4 non era male, direi. Era un altro gioco rispetto ai precedenti, ovviamente, però si è anche adattato ai tempi, è chiaro. Non potevano rimanere identici a loro stessi, dovevano cambiare, dovevano adattarsi, dovevano innovare, e hanno deciso di fare così. Direi che è stata una scelta vincente per il 4, almeno. Poi ovviamente, perché il 4 io me lo ricordo come un gioco abbastanza spaventevole, abbastanza d'atmosfera. Mi ricordo ancora il mitico mercante che arrivava. Stranger boy, what you would sell? Esatto, tra l'altro mercante che incredibilmente tra orde di zombie riusciva a salvarsi, e non si sa bene come essere in ogni posto dove tu arrivavi. Vabbè, che poi è stato una delle cose in Fallout, cioè, una delle cose più cosplayate. No, infatti sì, io matalo. Comunque io volevo sempre dalla chat. Mr. Newpick dice che per l'angolo della cultura propone una bella citazione di Grim Fandango, che sì, non è effettivamente un gioco vero e proprio horror, però comunque ha l'ambientazione nella terra dei morti messicana. Sì. Sapete che il giorno dei morti si festeggia poi il tutto domani, quindi. No, il 5 di maio. Guarda, 5 minuti. Simone Cognome ci sta dicendo una cosa. Vai. Brutta, che mi manca Grim Fandango, lo devo giocare. Tu hai perso tutta la tua vita a rincorrere Nintendo e capolavori veri, capolavori della Lucas. Cioè, vuoi dire, capito? Della Lucas che fu, pace all'anima sua. Bravo, pace all'anima sua. Va bene. Ma uscendo delle cose, potrebbero tornare la Lucas. Mettono i bozzetti di Star Wars 13. Potrebbe tornare la Lucas come zombie, però. la Lola Zombucas. Esatto. Comunque, saluto, no, dalla chat poi esatto. Mi fanno notare in effetti D2 per Dreamcast. Sì. Io ne avevo che era per cazzo, sì. Avanti, però comunque D2 anche D2 faceva paura, mi dico. D2 era quello. C'era pure scusa, vabbè. No, era quello stile avventura grafica, tra virgolette. No, era se non era, no. Era tipo Resident Evil in terza persona sullo stile, con dei fiori che uscivano dalle persone. No, tipo. Sì. Ah, mi sto confondendo con uno. Guardiamo per le note dell'episodio. Quale? Disco di due. Sì. Va bene, allora con una biondina che sembrava una che presentava i TG, insomma, con il tagliere, i capelli lunghi su sta aereo tipo in Alaska. Mm-hmm. Aspetta, allora mi sto confondendo. Anche la serie Siren comunque. Sì, sai. Siren, sì. C'era anche pure uno che io. Solo a Marco non gli è piaciuto. A me è piaciuto. No, più che altro a me di Siren mi dava fastidio questa cosa che dovevi comunque entrare diciamo, nelle teste di degli cinepito, cioè vedere dai loro occhi per capire più o meno gli spostamenti. No, io non ho mai giocato personalmente Siren, mm-hmm. Però lo conosco. No, mi ricordo un altro. Oh, aspetta, con di tu mi sto confondendo con un altro gioco. No, allora, c'è un altro che ho messo pure in scaletta perché poi ti cito dopo l'altro. Okay, c'era uno okay, che a me mi aveva scimmiato tantissimo perché ho detto che questo ti farà cagare sotto. Invece, poi effettivamente mi sa che la resa non era proprio esatta. Uh-huh. Che era. Mi sembra il Bleed, non ve lo dico. Esatto, aspetta, quello aspetta, che aspetta. Messo aspetta. Più ne parliamo dopo. Uh-huh. Se guardi in scaletta. Sì, sì. Se ti preoccupassi di guardare la scaletta qua aperta, ce l'ho la scaletta, ma non c'è, non c'è, cioè, leggi sotto. No, vabbè, non state ad aspettare mentre io leggo sotto, mi fido se lo leggi scritto. No, cioè, era una prova per vedere se sai leggere. No, perfetto. Allora, è detto ciò, io direi di passare alla prima posizione. Unica e inimitabile, attenzione. Siamo a mezzanotte. Ragazzi, dopo 4 ore si chiude la diretta. First, non preoccuparti. First and gold medal, champion du monde. Le champignon. Di Mecoyon. Abbiamo, leggetevi forte, il re del sondaggione è. Collina silenziosa, Silent Hill, il capolavoro. Il primo è il capolavoro. Anche no, il primo è anche il secondo. Shattered Memories, sì, il remake quello del. Vabbè, sì, è una rivisitazione carina, ma insomma, dai, raga, il primo Silent Hill è il primo Silent Hill. Senti, il primo mi ricordo centinaia di persone con motion sickness e quant'altro per le telecamere, ma che mi aveva davvero fatto cagare sotto. Ti ricordi che una delle prime fasi era tipo nella scuola al buio, sì, con quelle ombre di quei bambini che erano inquietanti che ti seguivano? Te lo ricordo. La scuola è la parte più difficile di tutto il gioco, proprio, assolutamente. Quella sì, era completamente sbilanciata quella parte. O anche quando dovevi, tipo, nell'ospedale, no? Che dovevi cominciare a muoverti e all'inizio era, diciamo, nella dimensione normale. E a un certo punto poi tu ritorni e vedi che c'è un sesto piano che prima non c'era. Nowhere. Sì, esatto. Vabbè, come nell'altro mondo, nella scuola, che entri in un cesso e esci in un altro. Sì. In un altro piano. Sì, ma era quel Giappone malato che poi è arrivato con The Ring, con The Phone, lì, tutta quella parte The lì. The Phone è quello che ti asciughi i capelli. Ci sta The Phone. Sì, The Phone. Non era The Phone. Vabbè, la roba del genere. Tipo, comunque quel tipo di... Che ti poi per me The Phone non mi può far paura a me, visto che... Niente. Io The Phone da poco che non uso più per The Phone. Lo so. Povero e quindi dico, fu la prepista di tutto quel tipo di horror giapponese. No, ma comunque c'ha ragione Simone, perché allora The Silent Hill 1 ci ricordiamo l'atmosfera, la nebbia, che poi era quello che volevo di prima, cioè nel senso, quando ho detto Resident Evil in età, quando inizio a smistare, in realtà sta parlando di Resident Evil. Ma poi era un gioco che l'atmosfera ti dava anche dovevi anche stare attento anche al sonoro, perché se ti ricordi, bravo, nel momento radio, in cui arrivavano i mostri c'era un'interpretazione radio che aumentavano e quello già ti faceva venire la scalista. Non potevi lasciare la torcia perché poi i mostri venivano tirati. Quindi mi ricordo che a un certo punto mi gente attenzione tipo al buio e poi solo guardare la mappa staccate i corni, però quando ho scoperto state andando via video e audio, mi sta qua. Mi senti? Sì. Male, però sì. Cioè, io vi sento tutti perfettamente. C'è Ah, allora, ok, allora sì, sono, sì, io, sì. Sono io. Ok. No, prima stavate laggando un po'. Non è vero. Succede. Mi rifiuto di crederlo. Senti dei rumori, facevo le partite dentro la scuola, cioè mettendo al massimo la luminosità del televisore, così spegnevo tutto quanto, camminavo, perché se camminavo non ti sentivano, quindi camminavi a luci spente e i pupazzetti non ti sentivano. Sì, bellissimo. E poi c'avevo la versione giapponese, quindi c'avevo l'adattatore, che però c'ha i sottotitoli in italiano. I ragazzi, lascia perdere, io c'avevo una versione di Silent Hill. Sempre al negozio poi Sì sì, no, era proprio chiaramente al negozio, perché nella mia versione bestemmiavano e facevano le parolacce in napoletano, quindi cioè meglio di così, no, te lo giuro. Io non Io ce l'avevo pure anche presa dal negozio, mi ricordo che la presa in anticipo e ed era la versione quella in inglese, perché poi mi ricordo che è uscito localizzato pure da noi. Ma era localizzato quei traduttori, quelli fatti così, le traduzioni fatte così, almeno c'era una differenza però da quello, mi sembra, giapponese e quello italiano, perché c'erano nei mostri quelli che stavano anche all'inizio, quelli che ti uccidono per finta all'inizio, c'erano in quello italiano delle specie di bambini strani, deformi, zombie piccolini, zombie. Mentre nell'altra versione, che non so se era quella giapponese o viceversa, c'erano delle cose strane con una bocca con i denti, cioè erano diversi. Sì, erano due versioni differenti. Sì, comunque io c'ho la versione dove a un certo punto la vecchia, quella a un certo punto, verso la fine c'è una vecchia con la cravatta, se vi ricordate, che bestemmiava forte e chiaro. E poi c'erano un sacco di errori di ortografia, ma tipo grossolani, c'erano dei guaiò, che ve lo giuro, cioè lo dovrei ritrovare. Hai giocato la versione doppiata? Cioè, tipo no, era tradotta, sai, prima non so neanche con che programma si riusciva a prendere il file con la traduzione a tradurlo. Sì, non ma credo, era una cosa. Non credo che ci avessero proprio dei mostri di hackeraggio. Non lo so, ma c'erano gli a capo messi i testi che erano tre lettere sotto, quattro, due parole, no, un punto, la virgola. Cioè, te lo sei goduto sto gioco, insomma. Sì. No, poi infatti, tanto che me lo feci poi riprestare, che il salvataggio funzionava, me lo feci prestare da anni che ce l'aveva serio. E ci siamo messi tutti i finali, poi lo aveva fatto tutto perfetto, quindi c'era il miglior finale. Io a momento, già tanto che avevo finito, mi hanno detto. Però sì, no, me lo ricordo come molto più disturbante Resident Evil, perché Resident Evil era americano centrico, diciamo, cioè American style. Resident Evil era più B-movie, questo qua era più tipo tipo The Ring, horror giapponese. Quel tipo, quell'ondata che c'aveva tutti gli stilemi dell'horror classico, quindi ecco anche colpi di scena, inquadrature particolari, roba del genere, però poi allo stesso tempo c'aveva tutta una serie di anche sull'ambientazione quella dell'altro mondo, quella oscura, che era già inquietante con questo suono martellante sempre presente. Sì, cioè, infatti era fastidioso. E poi la nebbia, che era per coprire magari magagne tecniche, però funzionava perfettamente. Ma te che è diventato un simbolo delle Silent Hill. E solo il primo film, secondo me, quello che è stato fatto, anche se non era un gran film, il primo film comunque è stato uno dei pochissimi film tratti da questo tipo di videogiochi che è riuscito a rappresentare benissimo l'atmosfera. Guarda che c'ha i primi 10 minuti che sono le stesse inquadrature, identiche di quando lei passa nella rete e ci sta tipo le carrozzine, è identico, l'hanno fatto nella stessa identica maniera, io l'ho scimmiatissimo. Poi dopo svacca con quel letto che vola lì, qualcosa. Dai, sono dettagli. Quindi appunto, sia Resident Evil che come dire, Silent che Hill. che Silent Hill hanno appunto ricevuto una controparte cinematografica, quella di Resident Evil mi sembra leggermente più scadente rispetto a quella di Silent Hill. Altro, boh, aderente fino a cioè, nel senso. No, beh, magari il primissimo con la casa, con la magione era abbastanza interessante. Sì. Poi dopo veramente la sì, ha preso una deriva. Hanno cominciato da un film di serie B per arrivare verso la Z. Sì. Sono arrivati. Sì, hanno fatto tutto l'alfabeto con. No, bello, effetti speciali, tutto quanto. No, per carità, no, non compete. Io non ho mai avuto un'empatia proprio forte con Resident Evil, quindi alla fine me ne fregava poco. Io, però, insomma, vorrei leggere intanto alla chat che c'era sempre The Martian Koku, che dice: in D2 c'era una scena in cui lo schifo mostro stuprava letteralmente una personaggia con un tentacolo che entrava in bocca e andava su e giù. Bello. Per chi ama il tentacle rape, no? Esatto. E poi c'è sempre Alessandro Bonelli che dice: giocato pochi mesi fa a 42 anni Silent Hill 2 è diventato comunque uno dei miei giochi preferiti per PS2. E gioca anche lui. Come non dargli torto, effettivamente. Beh, si gioca anche uno. Se non è giocato al 2. Cioè, se non è giocato al 1. Tappati un po' il naso perché ovviamente la grafica è quella. Ma la sorte è passata? Quindi allora tanti auguri di buon Halloween a tutti quanti, che insomma facciamo veramente tu sei a fare la festa per i morti. Tanti auguri, tanti auguri, sì, a tutti i morti. Anche auguri, buoni morti. Oggi è l'uno. Se poi ti dico i morti. Ah, è vero, scusami, è domani. Sì, il 2 ogni santo. No, il 2 i morti e uno ogni santo. No. I mortacci. Quindi mortacci. Vabbè, comunque, okay. Poi volevo fare menzione appunto d'onore sempre per altro gioco Dreamcast, il Bleed. Non so se qualcuno di voi ha i tempi del Dreamcast. Allora, sì, allora, al Negrozio pure il mio, perché se vi ricordate era senza Negrozi. Mi ricordi il Bleed? Allora, qual era? Perché allora, non mi viene allora, assolutamente in tutto il Bleed non uscì da noi PAL, perché uscì solo in Giappone e in America, perché ormai era tra gli ultimi giochi degli anni di vita del Dreamcast, purtroppo. Era praticamente un survival horror ambientato in una specie di parco giochi a tema con diverse case dell'orrore, dove ogni casa rappresentava un determinato film o comunque faceva il verso a qualche film di serie B. C'era quello tipo con i vermi giganti, quello dove c'era tipo una specie di tizio con la motosega che ti inseguiva dentro l'albergo. E praticamente c'era questa, era sempre un ambientato con setting comunque giapponese, e praticamente tu dovevi nei panni di una ragazza dovevi andare a salvare i tuoi compagni che erano stati rapiti all'interno di queste attrazioni. Ma la cosa particolare è che utilizzava una specie di interfaccia che si chiamava, non so se lo ricordate, l'horror monitor. Esatto. Praticamente lui ti evidenzia, tu spendendo alcuni punti, diciamo, della tua intuizione, poi c'è la botta, esatto, tipo la sanità mentale di Cthulhu, dovevi praticamente utilizzare questi punti per capire dove erano collocate le trappole all'interno delle location. Se tu riuscivi, il bello è che però questo monitor ti individuava qualunque punto, cioè dove c'era una possibile trappola, non era sicuro che effettivamente ci fosse. Se tu però riuscivi a scovarle i punti esatti, non subivi, diciamo, lo spavento, e quindi non ne risentiva la tua sanità mentale, quindi non impazzivi. Sì, e poi c'avevi anche i sensi, c'avevi esatto, c'avevi il gusto, l'olfatto, tutti questi sensi per capire anche che tipo di trappola fosse. E poi mi pare che ci sono pure anche dei combattimenti stile action. Io non ci sono arrivato, mi ricordo, esatto. Però rimasi un po' deluso, infatti tornai dal negozio che non c'era più, perché sapete non ero tanto, ho venduto sta sola. Ma io proprio mi scimmiato perché avevo letto la recensione, tutti mi dicevano: che cazzo, perché è bellissimo, non capite. E invece probabilmente avevano ragione. Una recensione, l'unica volta nella mia vita che mi è capitato di leggere una recensione e mi ha fatto venire la scimmia andare a comprare un gioco è stato Ultima Set. Vabbè, no, nel senso che non c'entra niente, però cioè nel senso, la recensione le leggevo, mi piaceva, roba del genere. Ultima Set è comunque gran gioco infatti, cioè, però è stata la prima volta che mi sono letto questa recensione con una descrizione minuziosa di tutte quante cose, ho detto no, cioè io pensa che io invece sono uscito di casa, ma sono avevo letto su TGM la recensione che ne parlava bene di Pagan, che invece Ultima 8 Pagan, che invece è stata una zozzeria, forse il peggior Ultima, e beh, è stata la morte Pronto? Pronto? Non so cosa sia, scusate. Pronto? Pronto? C'è qualcuno a casa? Sembra la di un cellulare, Simo. No, mi stanno chiamando da... Hai messo i dischi? Da FaceTime. No, no. Da FaceTime. Ah. Digli di smetterla di farti suonare. No? Vabbè, comunque penso che la gente non ne frega un cazzo. Esatto. No, scusate. Direi di sentire Cesare e poi insomma cominciamo ad andare verso... Sì, salute. Dobbiamo... No, cioè, notizie dell'anonima videoludica, scusa. Okay. Silent Hill, Cesare, tu hai giocato? Silent Hill, ho giocato l'ultimissimo che è uscito e me ne sono pentito. Da un pur, esatto. Ma la mia domanda è: qual è l'ultimo Silent Hill decente per voi che è uscito? Shattered Memories. Anche il 3 non era male. Secondo me, già da The Room diventa una cagata. Il 3 qual era? Ah, sì, no, è vero, i primi tre. The Room è quello col buco della stanza. Sì, i primi due, sicuro. Poi dopo, no, anche il 3, tutto sommato, è inferiore. Ragazzi, Shattered Memories. Vabbè, però quello è un remake diverso. Ma cioè... che remake? Scusa. No, era un altro Silent Hill. No, era ambientato col primo. Solo è il primo. L'interpretazione del primo. Solo che cominciava in maniera diversa. Perché mi pare che era tipo che tu andavi in terapia dallo psichiatra. Sì, no? È una reinterpretazione. E poi era carino che in base alle domande che ti faceva lo psichiatra cambiava alcune cose. Diciamo nell'esperienza di gioco, tipo, comunque aggiungerei come era la casetta col tetto rosso, c'era la casetta col tetto rosso. Se siamo in dirittura d'arrivo, io non ci siamo scordati, secondo me un grande assente, che è Eternal Darkness, che fu rivoluzionario perché legato anche sempre al livello di pazzia, anche quello Cthulhu proprio, cioè Lovecraft proprio pescava a mani, sì proprio bestia, lo incontrava, c'era tutto con Cthulhu e Lovecraft, ma anche quello aveva il livello di pazzia della protagonista, sì. Che addirittura ai tempi c'era questa cosa figa che ti abbassava il volume ma compariva, non so se vi ricordate, Cesare e il suo amico sicuramente no, e Simone sicuramente no. Sì. Ma vi ricordate nei vecchi televisori che le impressioni del volume erano con quel verde fosforico, che era verde fosforo? Sì. E il gioco faceva la barretta del volume che scendeva, quindi spesso tipo il mio televisore c'era la stessa, sì. E quindi sembrava che ti stesse abbassando il volume della televisione, oppure arrivavano giocava molto con l'interfaccia. Non so se ti ricordi che a un certo punto sembrava pure che quando andavi nel lab per salvare, in realtà lui diceva che stava cancellando il tuo salvataggio. Esatto, oppure si spaccia tutto impazzito. Quando arrivavi troppo si sparava in faccia, in bocca la protagonista, cioè da questo punto di vista era veramente pesante. Già il gioco, poi che ne so, aprivi una porta, rientravi e ti ritrovavi tutto rigirato. Sì. Da quel punto di vista giocava proprio col giocatore. Secondo me è troppo sottovalutato. Certo, poi l'ha fatta Silicon Knights, che ha fatto praticamente solo cagate. Uh-huh. Era quella che ha fatto pure tutto Human, no? Sì, esatto. E poi adesso si lamenta dappertutto, e che poi hanno copiato, mi sembra che sono quelli che hanno copiato e hanno preso una Unreal Engine, l'hanno modificato, esatto. E l'hanno fatto causa. Il motivo appunto per cui poi hanno dovuto fare tutte le copie in commercio di To Human, no? Esatto, cioè stiamo parlando proprio di campioncini, però ai tempi quello è un gioco troppo sottovalutato, sì. Per certi versi. Io sono abbastanza convinto che poi ce ne siamo persi veramente tanti anche in strada. Ci siamo basati su quelli che sono stati più votati, quindi il sondaggio, non sono cosa tutti. Che conosciamo. Vabbè, cioè, sì, ci sarà tempo per il prossimo Halloween. Sì, ma se voglio, esatto. Poi ovviamente alcune cose sono venute in mente a noi, poi magari ecco, sai, domani magari ci rivengono in mente, ma cazzo basta, questo non l'abbiamo detto, perché poi chiaramente è sempre così, insomma. Sempre lì, ragazzi, ma scusate, non possiamo fare un ultimo giro finale per dire, magari, dato che sta per finire questa generazione di console, il gioco più spaventoso secondo noi di questa generazione? Sì, bravo, mica male. Allora iniziamo da cognome. No, ve lascio. No, mo parli. No, è modello. Allora, ma io non, tanti non ho giocati di questa generazione. Spaventosi. No, comunque, Survival Instinct voleva dire. Esatto. Ma mi fa proprio paura. Che vi dico di questa generazione? Alien Colonial Marines. Bello, bello. Madonna, no, no, rivista, ci sono una rivista che davo 9. Sì, sì. Ah, 9 su 100. Dead Space, no, 9 su 9. Dire, non lo so. No, lei può dire Dead Space. 5 online. Supportato potrei dire. Dice Dead Space, Simone Cognome. Potrei dirvi Dead Space perché, onestamente, non mi vengono adesso altri giochi. Se sono Nintendo. Io non è stata una generazione basata sull'horror, insomma. Beh, su invece per PC sì, però tra Amnesia e che cazzo c'era pure, beh, anche quello di Cthulhu, quello proprio del richiamo di Cthulhu, spara tutto in prima persona, che non mi ricordo. Sì. Quello con Bonelli. Vabbè. Ma che è della morte dell'amore, sì. Porca puttana. Su PC di roba ce n'era, ragazzi. Sì, no, console, parliamo di console. Però siccome che Cesare ha fatto qualche PC che sta finendo questa, io ho detto Dead Space, dai, quello che mi viene in mente a me Dead Space. Allora, Giuseppe. Ma guarda, su due piedi ti dirò, anch'io Dead Space, purtroppo. Guarda, io pure, non mi vengono a mettere nient'altro, però proprio... Ma io ad esempio ci metterei Siren. No, ho detto, a me Siren più di tanto non mi ha... Dead Space, per quanto mi riguarda. Anche io. Boh, mi sa poco altro. Sì, Sentiamo Cesare, basta. No, anche Pizzi. Ma io... giustamente. Vai, Cesare. Tu, Deton 3 e poi Pizzi. Io citerei Bioshock, il primissimo. Ma Bioshock non è che provo, c'era paura. Perché ha delle situazioni in particolare che più che essere horror ti mettono la claustrofobia addosso. Ma cioè, allora pure Fallout. Cioè, Fallout di meno. Beh, Fallout aveva molto più il fatto che, non lo so, entravi in un dungeon e vabbè, allora lì, in questo senso, qualsiasi RPG ti mette addosso quella sensazione di ambiente molto chiuso, perché alla fine dungeon è... se entravi dentro il dungeon con i Deathclaw dentro... E anche col ghoul che facevano tutte sen ghoul. Come del ghoul. Era maggiore. Che bebbe. Citerei anche come altro gioco che non penso venga in mente quasi a nessuno. Metro 2033 più per l'atmosfera, per certi passaggi. Metro 2033. Ah. Beh, vabbè, già forse un po'. A me è venuto a mente un po' di roba. Mm-hmm. Però vabbè, pure Condemned fu, però vabbè, non più paura PlayStation 2. Mm-hmm. Io dicevo su 360, non lo so. Condemned 2 sì. Pure Darkness là, così no. No, Condemned 1, ragazzi, cioè. Anzi no, ho detto c'ho la PC, su PC ci ho giocato, sono di una cazzata. Però c'era su PlayStation 1 Condemned 2. Su 360, scusate. Sì, c'era. 2 c'era su PlayStation. C'era pure l'1. Mo stiamo a discutere su sta cosa. L'amico di Cesare, Simone 3. Ma io sono indeciso perché all'inizio, proprio come prima scelta, mi è venuto in mente Dead Space, il primo. Però pensandoci bene, anche Doom 3, che ho giocato su Xbox 360, e Quake 4. Ah, Doom 3. Ma poi non hanno fatto remake di Doom, di Quake. Che l'hanno rifatto recentemente, no? Doom 3 è uscito per la BF. Doom 3 di Big Mother Fucking Edition. È così si chiama, Sì, sì. No, non è BFG Edition. BFG vuol dire Big. BFG era l'acronimo di Big Mother Fucker Gun, no? Non me lo ricordavo. Ricorda la famosa mega arma finale di Doom 1, no? sì. No, rimorso. Beh sì, vabbè, ok. Sì. Però anche se non fanno proprio parte de... Non lo so, magari era più... Non era PlayStation 3. Era roba complessa, complessiva. Sì. 2004. No, in PlayStation non so manco se è uscito Doom 3, figurati. No. Fu l'antagonista di Half-Life 2 in quanto a grafiche e cose... perché Doom 3 usava tratti, insomma, c'ha dei momenti duri. A me bastava momenti... già sin dall'inizio. Dice, si svegli, signor Primo. Vabbè, svegli, signor Primo. Un po' come ingegnere Fantocci, no? Signor Fantocci, si svegli. Vabbè, comunque sì, non è che c'è stato, non è stata una generazione di prendere paura, non è c'è stata tutta sta paura, insomma, no? E quindi sì, diciamo che la paura... anche se poi non l'ho manco giocato proprio perché sapevo che mi faceva paura, quindi. La paura la facevano i giocatori in altro modo, con altri tipi di giochi, bug, ah sì, tipo Skyrim, Skyrim, tipo Fallout, certi errori là. Skyrim, io poi ricordo ancora il Behemoth che mi sono ritrovato in mezzo ai binari e lo sapevo pure che c'è stava, sono andato là, c'è tutto lì, sto coso enorme, mi corre dietro, che cazzo gli faccio, gli tiro una bomba, cioè una granata, esplode la granata e questo schizza sul nel cielo e rimane appeso in aria, quindi non mi poteva fare niente, io col fucile pa, 15 minuti l'ho ammazzato e passa la paura. Funziona. Funziona. Che fai? Dicevo, cazzarola, c'è il bug, è rimasto appeso lì, faccio ricarico. No. Sta bene lì. Ecco, ho preso pure l'achievement che l'ho ammazzato di canto, erano 4 su 4. 5 su 5. Vabbè, quelli che erano. Vabbè. Comunque, allora io direi di concludere quindi la parte di discussione e passare all'anonima videoludica. Aspetta, un'ultima cosa, dice Gabriel, sì. Cap dice: io ho comprato Dark Void, non so se guardate, col jetpack Fuse, ah, sì. Fuse, sì. E poi è Alien al Day One. Questa spesa mi ha fatto paura. Tacci mia. No, ma io penso c'è una considerazione di te, Gabriel. Insomma, pure sì. Adesso sta cosa di Alien al Day One, sì. Con tutto fatto l'amore male. Che posso, ma insomma, e vabbè, ragazzi. Okay. Allora, a questo punto, mentre che Stefano Biggio sbadiglia, andiamo a questa rubrica finale. Sbadiglio. Andiamo a questa rubrica finale, perché ovviamente, essendo questa puntata speciale, salteremo la questione della posta e andremo direttamente ai saluti. E andiamo all'anonima videoludica. Io qui vorrei una sigla videoludica. Vorrei una come si dice, un sottofondo stile TG. Vabbè. Queste sono notizie che sono dei rumors dell'industria videoludica. Non lo senti, ma c'è. Sono delle notizie segrete che grazie che tu hai acquisito origliando nel locale per cui lavori, esatto. sono andato proprio nelle basi tipo Ubisoft qui a Ginevra e altre zone, sono così le basi, come si, le sedie, ecco, non mi viene veramente il termine, le sedie della Ubisoft, e ho carpito queste informazioni. Ad esempio, lo sapevate che a breve uscirà un gioco basato su Simone Pizzi, il cui nome attuale è Simone Pizzi, e tratterà di un uomo a cui alcune cose non vanno bene e altre che gli vanno così bene che ci farà una trilogia di podcast? Lo sapevate? No, sono notizie segrete. È abbastanza inquietante, eh? Ecco, oppure lo sapevate che il nuovo Assassin's Creed sarà ambientato integralmente a Rozzano e sarà fatto solo da quick time event scaricabili tramite DLC a pagamento? Potrebbe essere di scaricare i pulsanti del quick time. Purtroppo, ragazzi, io non so cosa dirvi, sono questi rumor confermati. Tu le sai, queste cose le devi dire. E io, cioè, sono pagato. Infatti per questo, dopo tutto. No, ma la cosa scientifica e davvero giornalista è quella di esporre le notizie e neanche esprimere considerazioni. No, non bisogna dire come sono. Esatto. Citare le fonti, non posso citarle perché metterei in pericolo delle persone. La vista stesso. Esatto. Oppure lo sapevate che il prossimo gioco della Telltale conterrà circa 50 finali multipli e in tutti morirà la bambina? Questo lo sappiamo, ma è bello sapere. Adesso ci ha spoilerato, però. Scusa, ragazzi. Ma questa è notizia vera. Infatti, la famosa nuova IP di cui oggi quelli di Telltale dicevano di essere onorati. la bambina che lavora, esatto. La bambina che muore. The Dying Daughter. Esatto, the purtroppo. Girl, the Dying Girl. E poi l'ultima notizia, preparatevi, perché questo farà schizzare le vendite di Xbox One, ovvero la Microsoft pare che abbia promesso un allungamento del pene gratuito a chiunque compri l'Xbox One, anche se donna. Questo è molto anche se donna è fantastico, purtroppo, perché lo puoi utilizzare su altri, esatto, tra l'altro obbligatorio, cioè questa cosa sarà obbligatoria, cioè tu lo compri, è per cui io non comprerò Xbox, e se lo compri al day one ti sblocca pure un achievement, vero? Sì, esatto, purtroppo sono delle cose la chiave, che esatto, la gente deve saperlo. Siamo la gente, il potere ci temono. E con queste fantastiche quattro notizie di l'anonima videoludica che finalmente è partita come rubrica, andiamo alla rubrica di saluti. Cara filosofia dietro ludica. No. Carissima videologia dietro ludica, no, non è così, no. Spettabile dietrologia videoludica. Vabbè, va, è uguale. Allora, intanto questa puntata ve la ritrovate subito su YouTube, quindi poi uscirà anche il feed RSS del nostro podcast tranquillamente, un po' più rieditata come al solito, però di massima questa rimarrà lì, quindi quando volete ve la potete sapere sin da subito che quando uscirà la puntata rieditata ci saranno anche i Gironto Gamers, giusto, è vero. Motivo in più per cui in ogni caso non dovete scaricare, esatto. No, è importante invece perché ci saranno degli eventi in questa soppopera, ci saranno degli eventi che poi purtroppo avranno delle ripercussioni nel futuro, perché purtroppo vedete, poi è una storia, i personaggi oramai sono importanti e vivono di crescono e si evolvono, esatto, bravo. Ma esatto, delle ripercussioni, cioè sulle nostre vite, no, o sulle vite sulle mie vite. Detto questo, invece la prossima settimana, intorno a metà fine della prossima settimana, uscirà finalmente questo specialone archeologia videoludica e dietrologia videoludica sulla Games Week, visto il consigliato, ci siamo andati, ci avevamo pure il pass, salutiamo tutti quelli che ci hanno salutato. Tra l'altro, ringraziamo tutto lo fare pure le foto con noi. Esatto. Ah, ringraziamo tutti i fan che ci hanno fermato, che è una cosa che ci ha fatto veramente impressione. Sta cosa. E non ci hanno chiesto piacere, impressione. Piacere, ma impressione positiva. Ci ha piacevolmente impressionato. Esatto. A cui chiedo scusa, in primis, a cui chiedo scusa. Tra l'altro, non ci hanno manco chiesto i soldi. Questa è esatto. E ringrazio tutto il team con il quale siamo ovviamente stati, che era ovviamente Giuseppe Saso, Marco Gualdi, io, Stefano Paganini, Carlo Sant'Agostino, poi c'era ovviamente Cesare Girardi e ovviamente anche Roberto Bertoni. È stata insomma una bella esperienza, anche un'occasione per incontrarci tutti quanti, anche se non tutti ci siamo riusciti a stare insieme più di un tot, però insomma in linea massima comunque è stata veramente una bellissima esperienza, e racconteremo tutto quello che abbiamo visto, e questa è una cosa che insomma tenete la considerazione, soprattutto l'Oculus Rift, che abbiamo provato tutti l'abbiamo provato, loro l'hanno provato con la demo facile, a me mi hanno messo in mezzo al delirio, perché tu sei quello più intelligente, quindi no, non riuscivo a capire perché c'avevo un braccio che mi si compenetrava nella faccia, però insomma vabbè, sono cose che fanno piacere, esatto, era una cosa così, sembrava, infatti era un po' complicato. Detto questo, vabbè, io direi uscirà questa puntata, continuate a seguire chiaramente il nostro canale YouTube, perché è un canale che oramai insomma ci stiamo dedicando tutto il nostro amore, usciranno tanti video, quindi state sintonizzati, state sereni, guarda, anche guarda qua. Anche lui, usciranno tanti video. Detto questo, io faccio fare il giro di saluto. Sì, allora inizio da Simone Cognome, che da un po' che non lo sento. Ciao a tutti e vi aspetto a tutti su Free Playing, che è la trasmissione che ti dice se sei rimasto l'unico uomo nella faccia della terra, non rispondono gli altri. Questo è dell'astio gratuito che ci prendiamo su www.freeplay.it. comunque, vabbè, e vi saluto a tutti, se vi volete seguire su Twitter cercate Simone Cognome o Ben Malaussene, chiocciola Ben Malaussene, anche se non è che sono ultimamente stia twittando così, mi trovate pure su voglio diventare grande.tumblr.com e poi basta, grazie dell'invito, grazie della splendida serata. Network Shelter. Scusa Simone, diciamolo che tutti i ragazzi di Etrologia Videoludica sono di fatto diventati redattori di Orgames Italia, quindi so, diciamo, no? Esatto, e quindi Orgames Italia anche, ma sei il redattore del Games Italia. Grazie a Mass Effect. Ringraziamo Mr. Shepard. Esatto. E grazie della serata che insomma è una maratona, mancavo finito di cena a momenti, è l'una, vedi, quando ci si diverte, ci si diverte come finisce come finisce, come ci si diverte quando passa il tempo, esatto, grazie che mi hai confuso, passa il tempo quando ci si diverte, sì, bene. Ok, poi io Cesare Girardi e poi Detam 3 sottolineerei Giraldi, eh. Giraldi, non riesco a parlare Girardi più di tanto. Cesare alla romana, facciamo un compromesso. Cesare alla romana, ecco. Vabbè, io saluto tutti e saluto in particolare l'amico Marcello che mi ha chiesto di essere salutato. Ed è un nuovo ciao Marcello, bello te! Esatto, che segue tutti i podcast di Italian Podcast Network. Allora, vabbè, è uno intelligente, chiaramente. Esatto, mica uno fondamentali. Esatto, e niente, se vi volete far male, volete leggere qualcuno dei miei articoli, potete trovarmi su All Games Italia o dietrologialudica.it. Bene, Daitarn 3? Daitarn? L'attacco solare non è partito. Daitarn, ecco, che ce l'ha? Simone 3. Con Simone 3 si sono staccati da soli. Basta, vi siete staccati? Questi sono in centro. Sono divertito. Ah, no, vabbè, ma anche se non c'entri niente, questo lo sappiamo bene. Puoi salutare. Siamo noi che ti stiamo facendo parlare. Cioè. Dico, se hai un sito, un blog, qualcosa, puoi salutare magari anche. No, io non ho niente. Qualcosa che non dice mai nessuno. Mi state tutti sulle palle. Vai tranquillo. Cioè, Cesare, però, i tuoi amici tristi e leghisti non li portare più la prossima volta. Tristi e leghisti. No, ha dei bellissimi baffi comunque, vorrei dirlo. È un bel uomo, c'è anche una bella voce tra l'altro. Esatto. Scappa, che la logamano di PN ti ha chiappellato. Occhio alla logamano di Pizzi che si infila dove tu non vuoi neanche saperlo. Comunque, come Deadly Premonition. Che dici no, ma con lo sguardo dici sì. Sì, esatto. No, io non ci vengo, no. No, a che ora registriamo? Giuseppe Sanzo. A me trovate ovviamente su Dietrologia Videoludica, su Old Games Italia, mi trovate su Twitter con il chiocciola Peppe Saso e da là ovviamente tutto il mio scibile. E finalmente dovrei tornare tra qualche settimana pure su YouTube. Dai! In qualità di opinionista. Annientali tutti, no, Peppe, annientali. No. E tu sai cosa. Capisci a cosa mi riferisco? Sappi che Giuseppe non se la mette alla parrucca. Che figata, ragazzi! Che figata! Arriva Peppe. Tu sei Giuseppe, sei Saso. Ma com'è che non fai più il canale dei ti miei? Ti giuro, c'è ancora gente che a distanza di 3 anni infatti torna il canale di Peppe per fare pubblicità di Etrologia Videoludica. Esatto. Assolutamente. In maniera spudorata e vergognosa. Sì, io farei Peppologia Videoludica dove lui parla dei cazzi nostri. Tumblr, l'hai detto Tumblr? Sì, vabbè. C'è pure vita in gioco. Si naviga sulle nostre spalle comunque. Ma anche Pippologia Videoludica. Pippologia. Quello che si praticamente Marco saluta. Si Marco. Gioca così. Allora, no, io saluto tutto qua. Su tutti quanti. Saluto il microfono. Scusa, fermi. Dammi la mano. Questo nuovo staffista. È nello staff di All Games Italia. E loro non lo sanno, abbiamo fatto l'occupazione militare del sito praticamente. Abbiamo fatto bene, direi anche. Quindi comunque trovare i miei articoli inutilissimi su Oggi, quindi All Games Italia, a volte su Oggi, cioè sulla rivista Oggi. Su Oggi e su chi e gente anche esatto. Panorama. Magari Panorama Cronaca Nera. Esatto. E Simone Pitti, ah, no, scusa, finisci Marco. E quindi niente, se volete seguirmi, non so perché, ma potete farlo su Google Plus o su Facebook, digitate il distruggitore. Soprattutto su Google Plus, dove continui a postare quelle fantastiche immagini dei bug dei videogiochi. Sì. Ma questi sono finiti ormai, sono finiti. Mandateli questi maledetti. Sì, hanno corretto le foto proprio. Sì, esatto. Li hanno photoshoppato. Quindi sono tutti quanti, seguite il nostro canale video, esatto. Ci vediamo alla prossima puntata, che sarà dedicata alla morte. La prossima puntata forse potrebbe essere dedicata a Beyond Two Souls, potrebbe, a parte ovviamente la puntata della prossima settimana, che è sulla Games Week. Esatto. Bene, Pizzi? Io, vabbè, lo sapete, Pizzi Simone su Twitter, su Facebook Simone Pizzi, online Simone Pizzi, chiaramente. Da lì poi ovviamente potete trovare tutti quanti i podcast, sono Archeologia Videoludica, Archeologia Informatica, Calavera Caffè e poi tanti altri, insomma. Questi soltanto quelli a sfondo videoludico, sessuale, a sfondo sessuale, che ancora cominceranno a vedere. Io vorrei fare una domanda a Biggio. Sì, dimmi. Biggio? Dimmi. Che c'ha l'uncino? Sì, pronto? Non è l'uncino, è la mia mano, no, caro Marco Gualdi. No, non l'hai capita. Ma non sai, non sai. Mi sa che non tu non conosci Bombolo. Non conosci Bombolo. Non fai neanche la storia di Ciampino. Sì. Ciao a tutti. Io ne approfitto per salutare anche io, visto che ci siamo. Ah, già. C'è pure lui, è vero. Grazie per la pietà. Comunque... Ne approfitto quindi per salutare, per ringraziarvi della serata, chi ci ha seguito, i nostri ascoltatori in diretta e anche i nostri ascoltatori non in diretta, quindi quelli che ci ascolteranno più in là. Ringrazio tutti per esserci, vi ricordo di ascoltare Free Playing, ma più che altro di ascoltare Retrocast, sempre che esca qualche episodio ogni tanto. Noi l'ascolteremo pure volentieri, sì. Se solo uscisse qualcosa. Lo so, anche io, ragazzi, però... Pensa che a differenza tua, Pizzi, che è morta, a differenza nostra, Pizzi, che noi ti invidiamo, lui, Stefano, ti dice un anno fa, guarda che ti invito, poi invita il tuo vicino di casa, il gatto, il cat, ti toglie su guarda, Skype. Io sono stato invitato in Retrocast solo due volte, no, era st'estate che se stava a rompere i coglioni e mi ha detto, mi ha telefonato, mi ha detto, senti, dico, Marco, fa qualcosa al volo. Ma non è vero, ma non ti ho telefonato. E poi hanno fatto sta cosa al volo. E l'altra volta mi ha invitato che c'erano, boh, erano due zombie, non so neanche chi c'era. Erano i tuoi amichetti. Uno erano i tuoi amichetti. Due era l'estate scorsa. Quest'estate ero occupato a bucarmi, quindi purtroppo non ho avuto tempo. Bene a tutti quanti. Signori Simoni, ciao e buonanotte. Baciamo le mani. Ciao. Mamma mia. Ciao amici, welcome to The Room to Game. Attento, te sta mozzica! Ho visto, yes, sto figlio di una... l'ho ammazzato sto zombie di merda. Bravo, fagliela vede, attento al lupo mannaggia! Tranquillo, lo scanso e poi l'ammazzo, chi è sto cagnaccio di merda? Oddio, c'è sta vampirla, oddio! Sta buono che c'ha dei coronari fragili, ti devi dare una carmata, se no non ti faccio più venire a casa mia a giocare a giochi di paura. E che te devo dire, sono impressionabile, è che adesso sono talmente realistici, mi fanno sentire proprio male, mi fanno paura. È vero, ma ti ricordi una volta quando ti giochi ci mettevano paura, ma erano fatti con due pixel in croce? Sì, pure Alone in the Dark 1, guardarla adesso, Morello, fa tenerezza. È vero, porca zuzza, mi hanno ammazzato. Capita, sti poltergeist sono proprio bastardi. Vabbè, tieni, Simo, dai, provaci te, da. Non lo so, ma mi fa impressione sto gioco. Ma dai, che è solo un gioco, dai. Vabbè, però mi faccio solo un par di stanze e poi ti ripasso il controller. Muoviti, zumpa, spara. Dio, Simo, spara. Che ansia. A te, mi fa, Grazie. È il tardo lupo mannaggia. Il lupo mannaggia scrive al cammino morto. Spigere, spara, no, no, così scansa e vampirla e fa qualcosa, non sta fermo come nebbia in mezzo al veretto, niente Simone, sti giochi proprio non fanno per te, e me sei morto, morto, hai capito Simone? Ma perché fissi lo schermo con gli occhi sgranati? Guarda che sei morto, arriva il joypad, hai capito o no? Sei morto, Simone? Simone? Perché sei morto davvero? Simone? E mo? E mo che mi fa compagnia? Io ho paura di giocare a sti giochi. Fed, that's a fact. I have been fed, that's a fact. My credit card purchases get me cash back. My credit card purchases get me cash back. No one else gets these rewards. Sergeant, that is just plain untrue. What in tarnation? Sir, PenFed's PowerCash Rewards Card isn't just for military members. Anyone can get cash back on all purchases. Ah, figgins! You've ruined my favorite song. PenFed Credit Union. Visit PenFed.org/PowerCash. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCUA. Visit Helzberg.com for safe and easy ways to shop this holiday, like free shipping and returns, virtual shopping appointments, or buy online and pick up in store. And right now, get a free Microsoft Surface Go 2 with the purchase of $1,499 or more. You gift, you get. Limited time offer while supplies last. See online or in store for details.